La zanzara. Con Luca Telese. Eccoci in onda, una nuova puntata della zanzara. Oggi ronziamo duro, oggi ronziamo brutto, oggi ronziamo tosto. Non so neanche cosa voglia dire, però vi voglio introdurre una puntata che sarà piena di effetti speciali, di storie, di opinioni. Una puntata rotonda ma con qualche spigolo, però cominciamo a scaldarci, come sempre, con il TG2. Il ministro Gelmini ha annunciato un ricorso contro la sentenza del TAR del Lazio che esclude i professori di religione dagli scrutini. Pieco illuminismo, così la CEI aveva commentato la sentenza. Ancora sciagure della montagna, 3 morti in diversi incidenti in Lombardia ed Alto Adige, vittime una donna italiana e 2 turisti stranieri sotto accusa imperizia e superficialità. A Fiumicino, vicino a Roma, denunciate 3 persone colte in flagrante mentre distruggevano un autovelox a colpi di piccone. Siamo stanchi di ricevere multe, si sono giustificati. In Polonia, campagna degli ultracattolici contro la pop star Madonna. L'artista in programma un concerto a Varsavia il 15 agosto, festa dell'Assunta. Una concomitanza irriverente, dicono, si rischiano gravi incidenti. Scusate, so che ho una polemica in questi giorni, so che vengo considerato poco legalitario, che vengo considerato poco osservante delle regole, so bene che ieri ho contestato la nuova legge sull'immigrazione, però ragazzi, questa notizia dei 2 eroi che hanno distrutto l'autovelox a colpi di piccone, io la trovo bellissima. Sentiamo Studio Aperto. Bologna, morire per un portafoglio. Massacrato e derubato in strada un pensionato di 93 anni. Nel Casertano un bidello ucciso in casa sotto gli occhi della madre, picchiato senza pietà per costringerlo a rivelare dove erano i soldi. Baby alcolisti, l'ultimo caso a Lecce. Una 15enne in coma etilico durante una festa sulla spiaggia. Era piena di vodka, racconta chi l'ha soccorsa, come i suoi amici. Nella stessa sera altri 2 interventi su minorenni. Avevano perso i sensi, ormai succede ogni giorno. Il ministro dell'istruzione impugna la sentenza del TAR sugli insegnanti di religione. Ingiusto discriminare docenti e studenti, dice la Gelmini. Durissimi i vescovi che attaccano i giudici e parlano di decisione vergognosa. Sai che ti dico? Prendo la rotta sul fiume Hudson. Così il pilota dell'aereo poco prima dello schianto contro l'elicottero dei nostri turisti. Nuovi dettagli sull'incidente di New York. Domani in Italia le salme delle vittime. Ladri d'appartamento scatenati a Roma, in un solo condominio, a 2 passi da Trastevere, svaligiate 10 abitazioni nel giro di poche ore. Sono entrati saltando dai balconi. La disperazione dei derubati sembra passato un terremoto. Ho ballato con Madonna. Elena, 24 anni, di Pavia, ha coronato il suo sogno. Ha partecipato alle riprese del nuovo videoclip della pop star Celebration. Ha ballato con Madonna, ragazzi, sono cose fantastiche. Allora, oggi non faremo una puntata operaista, però certo, la notizia che ci colpisce è questa vittoria simbolica di una categoria considerata anacronistica, dismessa, addirittura obsoleta. Gli operai dell'INPS sono saliti sopra la gru e sono riusciti a vincere. Sentite la loro voce. Ise, giù le mani, dalla Ise, la Ise, la Ise ci ha insegnato, la lotta dura ha pagato. Roba che non si sentiva dagli anni 70, ma sono riusciti ad abbandonare una proprietà che stava vendendo a pezzi, una fabbrica considerata efficiente, e a ottenere un nuovo compratore. Chiamateli stupidi, sentiamo il servizio di Studio Aperto, quindi una testata non sospetta che ci racconta questa storia del Lince. Una fiaccola luminosa e poi un grido, vinto. L'accordo è fatto, c'è un nuovo proprietario, il gruppo Bersciano Camozzi. Ci vorrà un po' di tempo per riportarla in auge, ma io non noto. Un nuovo futuro per questa fabbrica che il vecchio padrone aveva chiuso 15 mesi fa e che gli operai hanno traghettato fino ad oggi. Fino all'ultimo lui ha cercato sempre di rialzare i prezzi, ma dopo ce l'abbiamo fatta. La notizia arriva dalla prefettura poco dopo mezzanotte e tra gli operai in lotta da più di un anno è festa. Per le 49 famiglie che torneranno ad avere uno stipendio su cui contare, per la fabbrica salvata, scendono dalla gru tra gli applausi i 5 operai che per 8 giorni hanno vissuto in cima a questo carro ponte per impedire anche fisicamente che fosse smontato e venduto. Senza le macchine finiva qualsiasi tipo di discussione e lì dovevamo pensare a un gesto risolutivo, almeno nel blocco del smontaggio dei macchinari. Hic sunt leones, avevano scritto sulla fabbrica occupata, e adesso che hanno vinto si sentono davvero come leoni. Hic sunt leones, questa è l'Italia, l'Italia in cui sembra la sinistra sia in estinzione, riscopre gli operai, magari voteranno Lega, ma è anche un'Italia a due facce, quindi oggi abbiamo letto con molto divertimento il buongiorno di Massimo Gallimellini, no certosa, no party, un fondo che è apparso sulla stampa, che commentava così: una notizia leggera ma buona per cominciare, questo lo scrive Gramellini. Il 70% degli italiani vorrebbe trascorrere Ferragosto a Villa Certosa con il padrone di casa, i suoi cari e le sue care. Accetterebbe l'invito senza esitazioni, recita testualmente il sondaggio Novella 2000? Qual è la buona notizia? Beh, che un 30% degli italiani non accetterebbe l'invito, almeno questo scrive Gramellini, o avrebbe un'esitazione prima di tuffarsi sotto la doccia con Topolanek. Immaginavo fossero molti, ma molti meno, colpa dei pregiudizi che mi portano spesso a sottovalutare le risorse morali di questo straordinario paese. 30%, per inciso, più di quelli che votano PD. Questo era Gramellini, si parla quindi di nuovo della Certosa e proprio oggi, mentre predisponiamo queste righe per la lettura, che cosa appare sul sito dell'Espresso? Nuove foto, nuovi ospiti della Certosa. E indovinate chi scende dall'aereo di Stato con la camicia chiara e gli occhiali scuri? Lui. Qui lo vedete col suo adoratissimo Gabriele, il figlio bambino, il nipotino più piccolo che gli fa spesso compagnia, anzi sempre. Racconta Berlusconi il grande legame che ha per la famiglia, l'amore per i figli, per i nipotini con i quali trova spazio per rasserenarsi, ma anche l'amore, l'amore per la moglie. È stata una ferita molto dolorosa, racconta l'intervista a Berlusconi, non so se il tempo potrà rimarginarla. Quello che è certo però è che la nostra, la mia e di Veronica, è stata una grande storia d'amore e le vere storie d'amore non si cancellano mai. Aggiunge: sono sereno, sono triste ma sereno. E poi rivela: penso a mia madre ogni giorno. Mia madre mi ha insegnato a non avere paura di nulla, a non farmi scoraggiare da nulla. E noi siamo commossi come Emilio, ma quasi quasi lo cercheremo, perché secondo l'Espresso, e quindi lo do con il beneficio inventario, è sbarcato a Olbia, si tratta di un aereo di Stato, e lui, Emilio, aveva detto questo. Io stesso credo che un po' amico di Berlusconi, si sa, io sono, non sono mai salito sull'aereo di Stato. Ho viaggiato sì con quelli dell'Alba Servizi, pagando puntualmente e caro il costo del viaggio. Quindi aspettiamo, cerchiamo, magari chiamaci Emilio, spiegaci come mai, mai dire mai forse, o perché, come mai sei arrivato lì con l'aereo di Stato. Allora, ancora un colpo di scena, proprio ieri ci eravamo animati intorno al problema, alla questione delle gabbie salariali, sapete che la Lega le ha chieste, sapete che Berlusconi con un'intervista al Mattino aveva detto una frase che era stata considerata come un sostegno a questo progetto. Oggi colpo di scena, lo scoop del giornale con Vincenzo Lamanna, che ha fatto un'intervista al Cavaliere, e Berlusconi in questa intervista dice: no, ma io gabbie salariali proprio non ne ho mai parlato. E un mistero, le gabbie salariali sono apparse, hanno balenato e turbinato in questo dibattito agostano e ora sembrano scomparire. Sentite Calderoli. Noi non parliamo di gabbie salariali intese come la vecchia legge nazionale. Noi chiediamo che la busta paga sia parametrata rispetto al potere d'acquisto e quindi al costo della vita, che è diversa nelle varie realtà del paese, affidando questa scelta a una contrattazione territoriale. E quindi non gabbie salariali, contrattazione territoriale, ma contrattazione territoriale già in parte c'era. Ogni fabbrica può farsi il suo contratto, se ha la forza contrattuale per ottenerlo e strapparlo ai suoi proprietari. In ogni caso, qualunque cosa si definisca, una cosa è certa: l'opposizione, con la voce di Bersani, è contraria. Quando si parla di gabbie salariali si parla di soluzioni impraticabili e inefficaci, che ci allontanano dalla questione vera per la nostra economia, che c'è poco potere d'acquisto dei salari e dei redditi medio-bassi, al nord come al sud. Eccoci, quindi eravamo lì, eravamo arrivati a questa posizione e, ditemi voi, continuiamo a parlarne, vediamo che succede. Intanto ci sono polemiche sulla scuola. Il TAR del Lazio toglie l'insegnamento della religione cattolica dal computo dei crediti finali ed esclude i docenti di religione, ovviamente, dagli scrutini. La Chiesa è netta e condanna questa scelta. Sentite i toni di Monsignor Coletti. Ma è chiaramente pretestuosa, perché i crediti e il valore generale del giudizio sull'alunno viene dato in base alle sue scelte. Se il 92% delle famiglie italiane scelgono l'insegnamento della religione cattolica, questo non deve entrare nel computo della valutazione dell'alunno. Sarebbe davvero una cosa strana. Con buona pace degli irriducibili laicisti. Non è colpa di nessuno se la cultura di questo paese è stata segnata da secoli e in misura massiccia dalla presenza della religione cattolica. E invece Di Pietro difende la decisione del TAR. In uno Stato laico deve essere permesso a tutti la libertà di scelta, e questa libertà non deve essere condizionata da un voto in più, da un voto in meno, da persone che in nome della religione possono condizionare gli scrutini. Allora, abbiamo salutato questa pagina, questa novità, questo colpo di scena avvenuto alla INSE, questa lotta vittoriosa, 8 giorni sulle gru. Roberto Giudici, lei era uno di quelli che ci è salito sopra. Sì. Buonasera. Buonasera. Intanto come si sente? Come sta? Ha recuperato? Ha dormito oggi? Sì, tutto a posto, tutto bene. Ci racconta, poi mi interessa molto il racconto delle motivazioni della nostra lotta, ma come sono stati dal punto di vista proprio fisico questi 8 giorni su una gru? Faticosi, stancanti, avevate i termos, le coperte, com'era? No, sono stati abbastanza faticosi, perché sotto il tetto faceva molto caldo, c'erano zanzare, e poi per dormire si dormiva sulla lamiera, per cui non c'erano materassini, non c'erano coperte, c'erano delle lenzuola anche, perché... E poi, l'organizzazione dei naturali bisogni fisiologici è stato un po' un problema, però l'abbiamo risolto. Quello era ultra secondario, quello che ci interessava. No, certo. Ma pensava che sareste rimasti per 8 giorni? No. Sinceramente no, pensavo un po' di meno, ma eravamo anche pronti a molto di più, per cui sinceramente pensavo che si facesse un po' prima nel risolvere questa questione, però... Ah, lei era ancora più ottimista? No, non ero ottimista, cioè non pensavo di risolvere tutto, come invece è successo, pensavo di risolvere solo la questione del blocco, dello smontaggio dei macchinari. E quello è stato la molla che ci ha spinti a entrare in fabbrica. In quanto tempo avete deciso di salire sulla gru? Mentre facevamo il percorso per entrare, discutevamo cosa facciamo, dove andiamo, cosa non è. Che ci inventiamo? Scusa? Che cosa ci inventiamo, no? Esatto. E da lì è uscita l'idea della gru. Chi ha avuto l'idea? Insieme, parlandone... non c'è stato uno, adesso non ricordo, però sembra che è uscita nella discussione. Dobbiamo trovare un posto, certo. dove che sia difficile da raggiungere, insomma, e non avete per non farci buttare fuori nel giro di mezz'ora. Certo. E fino ad oggi non sapevate come il mondo esterno aveva vissuto questa storia, che eravate diventati dei personaggi, una bandiera, un simbolo? Cioè, fino a ieri, forse, con i telefonini, qualcosa, no? Vabbè, ci arrivavano i giornali, cioè, insieme al cibo ci arrivavano i giornali tutti i giorni. Poi con i telefonini, no, eravamo al corrente di quello che succedeva, certo, fuori. Vi hanno copiato anche in provincia di Roma, sono saliti sul tetto di una fabbrica di calcestruzzi. Li abbiamo sentiti. In collegamento, lo so. Ieri sera ci siamo sentiti e speriamo che anche quei lavoratori possano... riuscire a raggiungere positivamente i loro obiettivi, perché sarebbe importante. Senta Roberto, riesce a raccontarci, siccome dicono sempre è inevitabile, bisogna delocalizzare, riesce a raccontarci, esatto, perché era giusto difendere la INSE secondo voi? ma perché tutti, diciamo, gli esperti del settore ci dicevano che la INSE, intanto questa nicchia di mercato è una nicchia di mercato che nonostante la crisi lavora, e poi ci dicevano che la INSE ha questa potenzialità e questa particolarità che ha tante macchine diverse, importanti, concentrate in un luogo solo, perché ci sono tanti, diciamo, altre aziende che hanno due o tre tipi di macchine che ci sono in INSE, ma ce ne ha due o tre. La INSE ha questa caratteristica, ne ha 20 concentrate, per cui ha la capacità di fare delle lavorazioni diverse nello stesso tempo, non ha bisogno di finire una commessa per iniziarne un'altra, e per cui tutti ci dicevano che l'INSE è con degli investimenti, con una dirigenza oculata, avrebbe sicuramente coperto il mercato e svilupparsi. Ah, è caduta la linea, adesso recuperiamo immediatamente i vostri messaggi all'824 0024, cioè le vostre chiamate all'824 0024, i vostri messaggi al 349 238 6666, e sentiamo Anita da Latina che ci ha chiamato per prima. Sì, buonasera. Buonasera. In realtà avevo chiamato ieri, ma non abbiamo fatto in tempo a incontrarci. Lei tenace è ritornata sull'obiettivo, brava. No, mi è dispiaciuto perché non abbiamo fatto in tempo a tornare sull'argomento dibattuto, che era abbastanza interessante. Certo, oggi sul tappeto, come dire, ci sono tantissimi argomenti sui quali certamente gli altri ascoltatori interverranno. La mia era più che altro una curiosità riguardo, sì, all'argomento di ieri, ma che comunque resta attuale, e che concerne la multa sulla bicicletta, no? Del signore al quale sono stati decurtati i punti patente. E la mia domanda, rivolta ovviamente a chi di dovere, magari non conosco la legge in maniera così approfondita, è: intanto, non avendo la patente e compiendo questo tipo di infrazione, a cosa si va incontro? Quindi, non essendo un automobilista e non avendo la patente. E da pedone, invece, a che tipo di pena, anche pecuniaria, andiamo incontro? Perché insomma la legge dovrebbe essere un pochino più uniformata, secondo me, in questo senso, ovvero l'infrazione compiuta da un ciclista, che può equivalere a quella di un pedone, che ha la potenzialità di causare lo stesso tipo di danno ad altri persone. Cioè, no, lei ha già ricordato, lo ricordo a chi ci ascolta, che ieri parlavamo di questo caso, il ciclista multato perché è passato sul rosso e costretto alla penalità di 5 punti sulla patente. Che le pare lei, scusi signora Anita, della questione della INSE? È rimasta, sì, stupita? scesi diciamo dalla gruccia, la fatica è stata tanta. La questione non l'ho seguita dall'inizio, ma bensì a metà strada. Credo che comunque nel momento in cui così ci si mette in gioco, fino a questo punto, siano poi importanti i risultati, anche se non si raggiunge subito l'obiettivo sperato. Certo, senta, il gioco di oggi è che chiediamo a tutti gli ascoltatori di partecipare al sondaggio virtuale fatto dall'istituto che ricorda Gramellini. Lei vorrebbe passare il Ferragosto alla Certosa con il cavaliere e le sue... Ospiti. Proprio non è neanche tra le mie minime ambizioni. Non è esperta di etruscologia. Figuriamoci tra le massime. Beh, poi lì c'è la questione aperta, insomma, sui ritrovamenti effettuati, mi sembra all'inizio, no? Del... Sì, ma ha smentito, No, il cavaliere ha smentito. I lavori di ristrutturazione di tutta la zona, no? Vabbè, insomma, al di là della passione per la materia, insomma, con tutta la piacevolezza che ci può essere nel discutere, nel così trascorrere del tempo col dottor Berlusconi, no, non è assolutamente, no, non lo trascorrerei, sicuramente. Bene. Lo impegnerei in altro modo. Ho capito, grazie, la saluto. Arrivano anche i vostri messaggi che io ricevo e leggo al 349-238-6666. Fede su di un aereo di Stato, dice Marco, rientra ancora nella categoria della stampa governativa e ci può stare, ma le signorie in che categoria rientrano? Boh, bella domanda, la giriamo a chi di competenza. Il Vaticano, se potesse, applicherebbe la legge di Dio alla nostra Repubblica, come ha sempre fatto quando ha potuto e come avviene in alcune teocrazie islamiche. Beh, ora voglio dire, non esageriamo. Poveretto i gramellini, è convinto della superiorità morale dello stupratore seriale. Questo è un gioco di parole. Un prete all'esame di Stato, che domande mi fa se io non credo? Stato laico, libero e civile. Andrea Lucchetti da Roma. Sentiamo un altro ascoltatore, Carlo dalla provincia di Modena. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Io sono il famoso Carlo, ci siamo già sentiti tempo fa. Non e Giovanardi. Come? Non Giovanardi con questo accento. Ma assolutamente. Lasciamo perdere Giovanardi. È tutto tranne che modenese. Tra l'altro quando si è presentato il seggio elettorale non si è presentato nel seggio di Modena, ma il seggio di Lecco. Questo non dice mai nessuno, ma visto che Modena è talmente tanto amato, quindi va bene. Niente, la chiamavo per... Signora, ieri sera sul TG3 mi sono permesso di guardare il TG3 purtroppo. E niente, sito il ministro Zaia che ha proposto di mandare le fiction a livello regionale, nel senso col diletto regionale. E quindi io mi chiedevo, ma che guardi, livello siamo... Avremo il ministro Zaia ospite stasera. Lei casomai richiama, intanto le facciamo sentire che cosa aveva detto. Noi abbiamo la necessità, se non in maniera integrale, magari di nobilitare tutte le lingue locali, visto e considerato che non si capisce perché che si, abbiamo delle fiction dove il romanesco si parla comunemente piuttosto che altre lingue di altre regioni, pressoché che so il campano piuttosto che altre regioni del sud, e rispetto al nord c'è un po' invece di ostracismo anche per fare poche e sole battute. Noi non vogliamo ancora avere quella parte che ci è sempre stata... Carlo, allora lei cosa voleva dire su questa vicenda? Che opinione ha? Siamo al delirio più completo. Quindi in ultima settimana dire. La Lega sta delirando. È una cosa assurda. Okay. È una cosa assurda. Lo avremo ospite, dopo e riferiremo anche questa sua notazione, diciamo, moderatamente critica. Senta, che lei ci andrebbe alla Certosa in vacanza a Ferragosto, certo, spesato. Certo. Aveva anche chiesto Tremontati che avrei avrebbe ospitato a casa sua. No, ma io chiedo a lei, lei vorrei conoscere andrebbe. Quelli che sono andati a casa sua del nostro caso. No, ma lasciamo perdere i Terremotati, lei ci andrebbe... Cosa andrebbe a fare? No, non ci vorrebbe andare. Non glielo dico. Non me lo dice. Lei è malizioso, signor Carlo, lei è malizioso. Ammette? Tanto. E comunque, un'ultima cosa, solidarietà agli operai della INS. Grazie. Umberto, da Roma. Buonasera. Buonasera. Niente, io ho telefonato per dire che le gabbie salariali, per esempio, il mio lavoro già ce l'ha. Perché io faccio il tassista a Roma e... Sono tariffe diverse, certo. Certo, perché se lei prende il tassi a Milano paga di più che a Roma, se lo prende a Napoli paga di meno, a chilometro e a orario. Cioè, le tariffe sono differenziate per lo stesso lavoro. E lei lavoro. È contento o no? Ma io a livello... È una buona cosa o no? Secondo me differenziare le tariffe non è sbagliato, perché ogni regione, ogni città ha le sue caratteristiche. Però se dovrebbe essere una... discrezione di fare anche delle tariffe a livello di spese, cioè bisogna riconoscere che in certe regioni si spende di più per mangiare, per dormire, per esempio a Roma è carissimo il costo della casa. Esatto, in ogni posto ci sono spese diverse e l'indice medio non è rispondente. Abbiamo parlato di una giornata densa di avvenimenti e di opinioni. Emilio Fede atterra la Certosa, discendono dalle gru gli operai della IMS e adesso noi ci sentiamo i titoli del TG3. I vescovi attaccano la sentenza del TAR che esclude dagli scrutini l'ora di religione, bieco illuminismo, la Gelmini annuncia ricorso. PDL UDC dal TAR discriminazione anticristiana, Fioroni giusto il ricorso del ministro, Di Pietro da cattolico do ragione ai giudici. Berlusconi mai parlato di gabbie salariali, Franceschini dal premier ennesima marcia indietro, duro affondo di Avvenire sul caso Escort. La INSA di Milano non sarà smantellata, la protesta dei lavoratori ha salvato la fabbrica, dopo 8 giorni gli operai sono scesi dalla gru. In Brasile un ex poliziotto diventato deputato e conduttore televisivo avrebbe ordinato 5 omicidi per far crescere l'audience del suo programma. Badanti e colf indispensabili per una famiglia italiana su 10, afferma il Censis, sono 1,5 milioni, quasi tutte immigrate. Sempre più difficile fare pagamenti al tabaccaio, scoraggiati da collegamenti difficoltosi e tempi lunghi, in molti rinunciano al servizio. No al concerto di Madonna, il giorno dell'assunta, cattolici polacchi in rivolta contro la pop star, scende in campo anche Wałęsa. Io speravo che Wałęsa fosse sceso in campo a sostegno di Madonna, ma qua siamo veramente, non lo so, alla guerra di religione. Allora, siamo alla Zanzara, stiamo ronzando, chiudiamo la nostra panoramica con i titoli di Sky TG24. La CEI attacca il TAR sugli insegnanti di religione, il ministro Gelmini annuncia ricorso. Franceschini a Sky TG24 sulle gabbie salariali, Berlusconi si smentisce da solo. Inflazione azzerata a luglio, ma è allarme di Banca Italia sul calo delle entrate fiscali. INSE giù dalla gru, ma il presidio resta, la nuova fabbrica sarà attiva dal 1 ottobre. Bidello ucciso in casa sotto gli occhi della madre, caccia gli assassini nel casertano. Morto per un pugno nel Teramano, restano in carcere 2 minori, domani l'udienza del padre. Badanti indispensabili per il Censis, una famiglia su 10 in Italia non può farne a meno. Processo a San Suu Kyi, la Cina sfida l'ONU e appoggia il regime birmano. Niente rossa per Schumi, il tedesco ringrazia la Ferrari e assicura, non è un addio. Italia-Svizzera amichevole con record, da stasera a Cannavaro e l'azzurro con più presenze. Allora, 824 0024 per intervenire, 349 238 6666 per i vostri messaggi. C'è questa butade che abbiamo lanciato sulla Certosa, ha suscitato molte reazioni. Uno di voi, non firmando, mi dice: non chiederei una donna se vuole andare alla Certosa, perché? Non sia malizioso. Ditemi quando e dove per andare alla Certosa, sto già facendo le valigie, grazie Marco da Verona. Mai la Certosa, meglio una piscina milanese, non sono come la Sant'Anchè che vorrebbe essere la figlia di B, che ruffiana, e questo lo scrive Liana. E poi una battuta meravigliosa di Arturo da Verona, Arturo Tepossino, tromba Fenicia alla Certosa. Vabbè, vedo che siamo molto ilari, molto sarcastici e divertiamoci. Allora, abbiamo un nuovo ospite, Alessandro Giglioli, giornalista dell'Espresso, ha scritto una lenzuolata al cianuro di quelle che piacciono a noi parlando di Piero Fassino. Perché? Buonasera. Buonasera, no, non è che io ce l'abbia solo con Fassino, ce l'ho un po' in generale con i politici che si riempiono la bocca, diciamo in media ogni 3 mesi, di Birmania. Fassino gli hanno dato questo ruolo che lui ha vissuto un po' come una consolazione dopo che l'hanno fatto fuori dagli incarichi di partito di inviato in Birmania, invece dovrebbe essere un ruolo molto serio, perché in Birmania 50 milioni di persone guardano con un'attenzione spasmodica ciò che avviene al di fuori dei loro confini, si aspettano che la comunità internazionale faccia qualcosa. Il bilancio di 2 anni di attività di Fassino come inviato dell'Unione Europea... Ma lo è ancora? Domanda, sì, lo è certo. Ancora? Sì, sì. Ecco. Io non so se gli danno una retribuzione per questo, mi auguro di no, fortemente. Perché sapevo che i birmani si erano arrabbiati, cioè non volevano... Ma sul sito Mizima, che è uno dei maggiori siti di opposizione, lo prendono frequentemente in giro. Che cosa dicono? Perché... Che dicono di lui? Dicono che ha preso questo incarico come una simpatica sinecura in cui fare dei bei viaggi nei migliori alberghi del sud-est asiatico, fare qualche conferenza stampa, prendersi la medaglia di inviato diplomatico dell'Unione Europea, ma poi conclude poco o niente. Ma non è il problema tanto della conclusione. Ma possibile sia stato così disastroso? Perché li ha fatti arrabbiare? Hanno detto che in una conferenza stampa... Ma vede, loro si aspettano un pochino più, i dissidenti, intendo dire, un pochino più di mordente. Quando Fassino dice vedremo se le elezioni del 2010 saranno regolari e saranno democratiche, a questi, ai birmani, se è arrivata questa loro frase in Birmania, gli cadono i capelli, perché bastava andare in Birmania a vedere come si è votato nel referendum costituzionale. Io ero lì tra l'altro proprio in quel periodo, tra mille intimidazioni e mille minacce, per capire che queste elezioni sono una farsa. Basta vedere il fatto che per Costituzione San Suu Kyi non può presentarsi in quanto sposata a uno straniero, quindi anche prima di essere condannata a questi 18 mesi lei non avrebbe potuto presentarsi alle elezioni. Questo non lo sapevano. Cioè, Fassino oggi ha fatto un'intervista a Repubblica, non lo sapeva. Ma non lo so, mi auguro per lui che studi un pochino storia birmana. Ecco, questa è un'altra cosa. Se uno studia un filo, non dico molto, la storia birmana recente dal 90 a oggi, è perfettamente consapevole del fatto che i generali usano questa strategia del temporeggiare, cioè del prenderlo, fingere di trattare, far finta di concedere qualcosa, e poi in realtà non concedono assolutamente niente. Si sono intanto barricati in questa capitale bunker, Naypyidaw, stanno per comprare dei missili dal Nord Corea per difendere questa, hanno questa visione paranoica dell'essere assaliti da qualcuno, dell'essere invasi, in realtà vogliono difendersi fondamentalmente dalla loro popolazione che li invaderebbe volentieri, questi 10 vecchi paranoici che hanno in mano il regime. Ecco, il regime ha sempre usato questa strategia di fingere di creare delle commissioni per la democrazia che durano 10 anni, che si riuniscono una volta ogni 3, fondamentalmente mangiano in grandi alberghi queste commissioni, eccetera, e poi alla fine non concede assolutamente nulla, e se qualcuno si rivolta, come i monaci 3 anni fa, giù botte. Fassino è rimasto, credo, l'unico al mondo a credere alle promesse di questa giunta, ma non, ripeto, non ce l'ho su in particolare con Fassino. Mi dispiace che in Europa, in Occidente, si parli della Birmania ogni volta che si ribellano i monaci o che la San Suu Kyi viene messa in galera, e non ci si rende conto della complessità della situazione. La complessità, per esempio, sta nel fatto che l'Europa, al di là dell'Unione Europea di cui Fassino è inviato, al di là delle belle parole buoniste piene di... Secondo lei, nel suo articolo scrive, avrebbe dovuto ad esempio fornire la lista ufficiale delle aziende europee che fanno affari d'oro in Myanmar? Sì, perché queste liste sono fatte da... in internet, e gli dica lei, ci dica chi... Chi è che va lì a far soldi? Prima di tutto la Total è francese, quindi non italiani. No, non italiani. Gli italiani sono un filo più attenti, abbiamo soprattutto tour operator italiani che fanno affari. Aung San Suu Kyi ha chiesto un sacco di volte che non si faccia turismo in Birmania. Ora, una forma di rispetto per Aung San Suu Kyi sarebbe, invece di dire belle parole su di lei, sarebbe per esempio dire ai tour operator che vanno in Birmania, dire no ragazzi, non si fa. Invece no, noi continuiamo a esportare tonnellate di turisti in Birmania. Io sono contento, io ci sono stato pure io come turista, anche perché come giornalista non ti fanno entrare, ma in termini politici fa un po' ridere questa cosa che noi ci strappiamo le vesti per non far succedere e poi ci mandiamo i turoperator. La Birmania è importante perché possiede una cosa, scrivi nel tuo blog, sì, il possiede gas. Fondamentalmente gas naturale, sappiamo che la Cina con la sua espansione industriale degli ultimi anni ha molto bisogno di fonti di energia, è una grossa importatrice di gas naturale. La Cina, si sa, l'abbiamo visto anche le Nazioni Unite oggi, ma non solo la Cina, attenzione, protegge la Birmania, perché anche l'amico Putin, cioè la Russia è stata fra quelli che hanno sempre bloccato ogni risoluzione contro la Birmania, anche sui lavori forzati, anche che non c'è solo San Suu Kyi, ci sono orribili carneficine di minoranze etniche, a cominciare dai Karen, per le quali è stata chiesta, sono 200 etnie in Birmania, per le quali è stata chiesta spesso la risoluzione del Consiglio dell'ONU, regolarmente bloccate da Cina e anche dalla Russia. Oggi ha dato il suo contributo a bloccare questa, non è una risoluzione, ma questo documento critico, anche la Libia dell'amico Gheddafi. Ho visto che hai messo sul tuo blog anche le foto di Emilio Fede, in tempo reale quasi. Ora Villa Certosa, cioè Fede, no, io sono molto più interessato a questa hostess balconata che l'ho accolto all'uscita dall'aereo. Ma chi è? Abbiamo fatto un salto di genere, una metabasi piuttosto violenta. Ad ogni modo, no, scusami, no. Per carità, va benissimo, fa tutto attualità, mi dispiace perché la Birmania mi fa surriscaldare. Ad ogni modo, sono le foto che pubblica l'Espresso domani, quindi fatemi fare un po' di pubblicità per il mio settimanale, di cui ho anticipato una piccola parte sul mio blog. Si diceva che Berlusconi era blindatissimo nel suo ultimo arrivo a Villa Certosa, così blindato, evidentemente non era, se un bravo fotografo l'ha ripreso. Non so chi sia la hostess, Luca, mi dispiace. Gli hanno mandato una hostess sul per Fede. Umore, allora scusa, potremmo andare anche noi? No, io non ci invitano. Vado, io vado alla Capraia, che è un'altra isoletta molto più piacevole. Non so se posso fare pubblicità anche per la Capraia. Va bene. Quindi, insomma, secondo te il bilancio di Fassino è veramente fallimentare? No, non secondo me, specialmente secondo i siti di opposizione. Dimmi birmana, un'altra critica che gli fanno. Un'altra critica che gli fanno, più di quello che ho detto, Luca, cosa posso dire? Mancata incisività, credere in un alle dialogo balle del regime, a cui non credere nessuno, non sbattersi in alcun modo contro le corporation italiane ed europee che fanno affari in Birmania. Mi pare di aver detto abbastanza. Io l'ultima critica che gli faccio è che mi sembrava inopportuna, posso dire, la modalità dell'intervista che lui ha lasciato ieri a Sky, così bello, sgiacchettato, in maremma, in vacanza, sereno, mentre insomma forse un minimo di partecipazione in più al dramma, visto che fai quel ruolo lì, voglio dire, visto che hai, certo, il ruolo di... Ma questa è la grande domanda su dove sono sti idee della sinistra. Gli operai della IMSS salgono sulle gru, quelli di Porto Torres mettono le tende davanti alla fabbrica, i birmani sono i guai e loro stanno tutti a Capalbio. A volte credo che abbiano bisogno anche di qualcuno che li aiuti a comunicare, perché se tu parli di un dramma terrificante come la Birmania, dove ci sono... Certo. Decine di persone che muoiono nelle carceri, torturate, lavori forzati, bambine stuprate, eccetera, forse un minimo proprio di physique du rôle devi accettarlo. Se fai un'intervista così serena, rilassata, fra gli ulivi della tenuta in Maremma, fai un po' la figura, posso dire, un po' la figura del Piero. Sei cattivaccio, ma noi più cattivi di te. Bravo Alessandro, picchiaduro sul tuo blog. Stiamo parlando di tante cose, gli operai della INS scendono dalle gru, Emilio Fede scende dall'aereo, noi vogliamo anche cercarlo, perché abbiamo visto queste foto sull'Espresso, aveva detto che non avrebbe mai volato su un aereo di Stato e volevamo sentirlo, magari c'è un motivo, magari gli si era bucata la macchina, non so, una qualunque ragione, vediamo se riusciamo a sentire almeno uno squillo, il telefonino. Il cliente te l'hai chiamato, non è al momento raggiungibile. Sta nella tomba etrusca e non c'è campo, porca miseria. Tommaso da Bergamo, sentiamolo. Buonasera, signor Telese. Buonasera. Allora, io ho sentito un po' il suo intervento prima, che riferimenti, ascoltato anche le dichiarazioni dell'esponente della Santa Sede sul discorso della sentenza del TAR rispetto agli insegnanti di religione. Lo dico, parlo da credente, praticante, volontario della Caritas, della mia diocesi, e mia moglie anche catechista, per cui mia figlia fa religione a scuola. Non è uno fatta di quelli dell'associazione per lo sbattezzo sotto falsa no, identità? No, assolutamente no, e lo dico da cristiano. Allora, io quando sento queste uscite della gerarchia vaticana, quindi dello Stato Vaticano, non della Chiesa come comunità ecclesiale, resto allibito. Già quando è stata fatta quella regalia economica sotto forma di inserimento di ruolo degli insegnanti di religione, mi sono molto arrabbiato con questa cosa, mi è sembrata una forzatura di legge che ha consentito un surrettizio finanziamento della Chiesa, l'8 per mille è già abbastanza sostanzioso. Però potrei stabilire un discrimine, siccome... Forse sarebbe giusto che gli insegnanti di religione partecipassero agli scrutini, sarebbe giusto forse anche fossero scelti dallo Stato e non dalla Curia, ecco. Il concorso profondo che è stato fatto per regolarizzare de facto situazioni pregresse di nomine della diocesi mi ha molto scandalizzato, perché se deve essere dello Stato lo stipendio, è giusto che sia lo Stato a dettare anche i criteri di assunzione. Primo. Secondo discorso. È vero che la religione è una scelta volontaria e fondamentale. È d'accordo che comunque un professore è giusto che partecipi allo scrutinio? Sì, sicuramente sì. Mia figlia fa religione a scuola, alle scuole superiori, l'ha fatta dall'elementare, ha frequentato l'asilo parrocchiale, quindi lo parlo da assolutamente dentro alla Chiesa, alla perfetto, comunità ecclesiale. Io distingo Chiesa e Vaticano, sono due cose, perfetto, secondo me sono due cose purtroppo ancora diverse. Ho capito la distinzione, va bene, la sua opinione è chiara, la ringraziamo, continui a fare volontario per la Caritas, ce n'è bisogno, e adesso passiamo la linea al ministro Luca Zaia, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, sa che ieri abbiamo dato la notizia della sua proposta delle fiction in dialetto, continuano a chiamarci, pro, contro, insomma ha suscitato un bel vespaio, Beh, guardi, io ho semplicemente risposto a una domanda, mi è stato chiesto se possa essere opportuno il fatto di valutare l'opportunità di avere delle fiction nelle quali ci siano delle parti in dialetto, o comunque di valorizzare le culture locali. E penso che non ci sia nulla di scandaloso pensare che ci possano essere delle parti, ad esempio, di qualche fiction dove ci sia il sottotitolo perché si parla in siciliano piuttosto che in Veneto, in Lombardo e in Campania. E questo è semplicemente valorizzare poi anche queste culture locali che comunque ci vedono molto coinvolti e ci danno anche questo grande lustro a livello internazionale. Ministro, per lei c'è prima la bandiera dell'Italia o prima quella della Padania? Beh, guardi, io non ne faccio una questione di bandiere, anche perché la Costituzione dice che la Repubblica è costituita da Stato, Regione, Province e Comuni, e addirittura c'è una sentenza della Corte Costituzionale, non mi prendo impreparato su questo, che dice che non è un fatto minimale riconoscere l'autonomia delle regioni di dotarsi dei propri simboli. Ma lo sa che ha dato una risposta lunghissima, e io invece so che lei è un leghista concreto, fattivo, pratico. Cioè, alla fine, quale bandiera c'è prima per lei nel suo cuore? Ma guardi, io non le darò mai una risposta, anche perché ormai non gliela do, semplicemente per un motivo, perché una risposta a una domanda del genere ci presta comunque a polemiche. Io dico che nel cuore ognuno ha il bene del proprio territorio. Allora la traduco così: lei nel cuore ha la bandiera della Padania, però non vuole dirlo perché siccome ministro ha paura che ci sia una polemica. No, no, assolutamente, però non pensavo che fosse questo il termine della discussione che dovevamo fare. No, ma io le ho chiesto una cosa, una battuta, e siamo così alla zanzara. Lei che bandiera ha a cuore? Io, beh, devo dire il tricolore, sa, e poi dopo i quattro mori, perché sono nato in Sardegna e mi piacciono molto, però bendati perché erano schiavi. Certo. Senta, invece le vorrei far notare che le ho dato una risposta compiuta, nel senso che l'avrà pure definita lunga, però le ha anche ricordato che la Costituzione prevede che non ci sia la scelta di una bandiera, ma che si possano commensurare la scelta della bandiera nazionale e di quelle locali. L'articolo 114. Ma non c'era nessuna polemica. No, non volevo sfogliare la Costituzione, le ho fatto una domanda, e siccome so che lei è un uomo molto pragmatico, guardi, io non sono solito, mi perdoni, a citare la Costituzione, ma siccome qui parlano tutti di bandiera, nessuno conosce magari gli articoli della Costituzione, varrebbe la pena andare anche a leggere. Ma ha ragione, c'ha anche rinfrescato, e capisco, è una domanda, lei è libero di dare la risposta che vuole. Senta, ministro, è vero che lei mi hanno raccontato un dettaglio interessante, che ha ordinato delle scarpe verdi con il simbolo del sole delle Alpi? No. Guardi, è vero quello, in parte quello che si sta dicendo, nel senso che è accaduto che un nostro militante della Lega ha chiesto ad una nota multinazionale che fa scarpe da ginnastica di poter avere griffato la parola Padania Libera, visto e considerato che questa multinazionale fornisce come servizio la possibilità di ricamarsi dei simboli, delle frasi, certo, sulle scarpe per personalizzarle. E quindi ho capito che è la Nike, perché esatto, è solo loro che offrono questo servizio. Ecco, quindi hanno risposto alla richiesta di scrivere Padania Libera che loro queste cose non le fanno. Ecco, ma perché? Questo è strano, questo è così come prima, forse, questo mi sembra assurdo, perché non lo permettevano? Ce l'hanno con la Padania la Nike, non ci credo. Guardi, dovremmo chiederlo a loro, il problema è che poi c'è stata fortunatamente un'altra azienda, a questo punto citiamola, la Lotto, che ha detto: mi rendo disponibile a farlo io, lo farei per uno di sinistra, per uno, certo, di destra o di centro, o meglio ancora per uno. Certo. Ottimo, e quindi è riuscito ad avere queste scarpe il suo militante? Oddio, è caduta la linea, ci deve essere qualcosa che non va, allora sentiamo al volo Ciro Avellino e ricontattiamo il ministro. Pronto, Pronto? Ciro? Salve, buongiorno. Buonasera. Buonasera. Mi fa piacere che c'è il ministro leghista, perché io volevo parlare delle gabbie salariali. Io sono del sud, sono di Avellino, ma il termine gabbia forse è stato sbagliato, ho detto così in modo superficiale al ministro Bossi, però io penso che sia una cosa giusta, perché mi rifaccio ad alcuni amici miei che proprio in questi giorni sono stati assunti dalle Poste e si trovano a lavorare, chi a Milano, chi a Bergamo, e con 1200 euro credo che non ne valga la pena spostarsi da Avellino in queste zone, perché non si riesce ad arrivare a fine mese. Leggevo oggi una statistica sul Corriere della Sera che per vivere a Milano un single spende circa 1323 euro, comprendendo affitto e diciamo il vitto e l'alloggio. Quindi diciamo che è una cosa secondo me giusta, e non noi, soprattutto noi giovani, perché ho 33 anni, non dobbiamo avere paura perché le cose le propone la Lega. Allora, quando le propone, è un modo di proporre che è un po' colorito, però credo che siano, cose giuste. Perfetto, guardi, è ritornato Zaia, quindi gli giro questo apprezzamento. Ministro Ciro D'Avellino ha detto che sostanzialmente è d'accordo con la vostra proposta delle gabbie salariali. Io lo ringrazio, anzi mi scuso perché mi è saltata la linea, mi perdoni e mi faccia perdonare. Ma si figuri. Ma dico, innanzitutto cominciamo magari a fare una proposta in una radio autorevole come la vostra, non chiamiamole più gabbie salariali perché poi magari evocano anche brutti ricordi, chiamiamole contrattualizzazioni territoriali, ovvero cerchiamo di mettere in linea gli stipendi col costo della vita. Questo è semplicemente quello che stiamo facendo. Però le faccio fare l'obiezione che ho sentito da Brunetta. Il suo collega Brunetta, che sa che ricorda il suo maestro Brodolini, che abolì le gabbie salariali, e le abolirono perché il costo della vita medio non corrispondeva mai a, come dire, al costo reale. Esempio, in una stessa regione del nord ci può essere un costo della vita leggermente più alto a Milano e leggermente più basso in provincia. Quindi è uno strumento molto imperfetto l'indice medio del costo della vita. Diciamo che la mela a metà non si riesce mai a tagliare, questo lo sappiamo tutti, però sappiamo anche che Banca d'Italia ci dice che vivere al di sopra del Po costa il 15% in più che vivere al di sotto del Po, e questa non è una colpa per chi è al di sopra o al di sotto del Po, però sappiamo che a questo punto dovremmo dire che gli stipendi al di sopra del Po hanno un potere d'acquisto inferiore del 15%, non ci sembra nulla di trascendentale, del resto ormai rispetto a quegli anni che citava Brunetto delle gabbie salariali, l'informatica è apparsa nella nostra vita, esistono le statistiche. Abbiamo strumenti più esatti, vuole dire. Senta, io ho fatto un servizio che si chiama SMS Consumatori, dove digitando un SMS al 479 47 si digita il nome dell'ortofrutta di uno degli 83 prodotti censiti e si ha il prezzo all'istante di questi prodotti per il nord, centro e sud. All'origine, ma lo sa che lei è un genio, già ha pubblicizzato il numero, ci ridica il numero, aspetti che 47947. Allora, ora digitando, chiedo alla mia regina alla mia regia di digitare pomodoro e vediamo che cosa ci dice, giusto? Sì, esatto. Ah, vediamo in diretta. Vediamo. Le darei tre prezzi. Allora, 47 9.47 9.47 facciamo il test col pomodoro da Piazza Indipendenza a Roma. Allora, senta ministro, stava finendo di raccontare quella storia delle scarpe, quindi ora lei possiede, grazie alla Lotto, un paio di scarpe verdi. Beh, Forza Padania? Ancora no, la scritta richiesta dal militante era Padania Libera. Padania Libera. Io girerò questo omaggio che Lotto ha offerto direttamente a questo militante. Ma il problema non è della militanza di cosa, ma è del fatto che un servizio fornito ai clienti viene tolto, questo servizio, nel momento in cui un cliente ti chiede di scrivere, cioè, Padania Libera. No, ma infatti è molto curioso, secondo me meriterebbe un'inchiesta, cioè qual è il criterio, cioè perché c'è un nome territoriale, perché l'hanno considerato un messaggio politico, c'è un omino che controlla le scritte alla Nike. Ci sarà un computer con un motore di ricerca e avranno già il blocco per alcune parole tipo Padania, ma è probabile che sia così, Certo. Proverò con Sardegna Indipendente. Senta, ministro. Sardegna, ma forse la parola indipendente sarà anche questa nel motore di ricerca. Certo, sicuramente. Senta, ministro, volevo chiedere un'altra cosa. Ma la Lega negli ultimi anni è riuscita a strappare uno zoccolo di rappresentanza operaia alla sinistra, no? Lei che ha pensato quando ha letto la notizia che gli operai della IMSE hanno risolto la loro questione? E che è un po' la notizia del giorno. Innanzitutto che è un grande risultato, perché anche qui salviamo dei posti di lavoro, e questo governo è molto, come si può dire, concentrato sul fatto che non si perdano i posti di lavoro in un momento di difficoltà planetaria e internazionale come tutti noi conosciamo. In generale la Lega intercetta voti della classe operaia, come la definisce qualcuno, dei lavoratori, ma io direi del popolo, no? Perché noi amministratori siamo in mezzo alla gente, percepiamo i problemi della gente e cerchiamo, come diceva Rousseau nel contratto sociale, di fare in modo di avere una delega per rappresentare il popolo, no? Rousseau diceva che il popolo delega le istituzioni a esercitare alcune competenze. E il popolo ci delega, noi cerchiamo di tradurle in leggi e che diventino operative a favore del popolo. Ministro, se finisse oggi il suo mandato, ci fosse una crisi che non c'è e non ci sarà, lei di che cosa sarebbe più orgoglioso delle cose che ha fatto finora? Vede, innanzitutto di aver fatto di aver mantenuto gli impegni presi con i cittadini, perché qualcuno magari sorride quando parliamo del ruolo di Rai 3 rispetto all'attività che dovrebbe fare a favore delle regioni, l'identità. E a me è stato affidato questo Ministero dell'Agricoltura, che è sì la difesa produttiva. Noi abbiamo un comparto da 60 miliardi di euro e oltre 4.500 prodotti tipici, siamo eccezionali. E ringrazio tutti gli agricoltori per il grande lavoro che fanno, però facciamo una difesa identitaria dei nostri territori. Cosa sarebbe la sua Sardegna senza i prodotti tipici? Basti pensare a questo piuttosto che la Campania senza la mozzarella di bufala o l'Emilia Romagna senza il parmigiano reggiano e così via. Cioè, questa è la nostra storia, la nostra cultura e la tradizione che vanno mantenute. Ottimo. Senta, ma un provvedimento le chiedevo, una cosa che uno dice c'è perché... c'è stato il ministro Zaia, una cosa, guardi, il suo fiore all'occhiello. Ma guardi, ce n'è uno che mi ha appassionato e mi sta appassionando. E la nostra agricoltura, e parlo a una radio che si occupa anche di numeri di finanza, è un'agricoltura che in teoria dovrebbe essere considerata fuori mercato per i costi di produzione che ha. Però la qualità e la sicurezza alimentare che facciamo noi non la fa nessuno. Per difendere le nostre produzioni bisogna fare solo una cosa: rendere obbligatoria l'origine in etichetta. Cioè, quando noi andiamo a fare la spesa e compriamo prodotti tipici, certo, alimenti, è giusto che noi sappiamo... Un olio che sembra italiano e invece è un olio turco miscelato... Esatto. Quindi grazie a noi, dal 1° luglio di quest'anno c'è già l'obbligatorietà per l'olio. Abbiamo presentato un disegno di legge, che adesso diventerà legge, per l'obbligatorietà dell'origine in etichetta per i prodotti in generale, e proprio il 6 agosto ho firmato, quindi qualche giorno fa, ho firmato il decreto ministeriale da inviare in Europa per rendere obbligatoria l'origine in etichetta per il latte. Produciamo 10 milioni e mezzo di tonnellate di latte, ne importiamo 8 milioni di tonnellate, ma noi consumatori non sappiamo nel momento in cui lo stiamo consumando se è italiano oppure straniero. Allora, invece una domanda un po' più difficile. Ieri in questa puntata ci siamo un po' accapigliati su un caso di cronaca, cioè sono state opinioni molto diverse, molto opposte, non so se lei l'ha letto, quel cittadino bengalese clandestino che è andato a denunciare un'aggressione che aveva subito e un furto da parte di 5 malfattori e che è stato ovviamente, ai sensi della legge appena approvata, è stato espulso, ha ricevuto un decreto di espulsione da parte delle forze dell'ordine. Che cosa pensa di questo paradosso? Beh, che è un'eccezione che conferma la regola, nel senso che c'è una nuova legge in Italia che cercheremo di far rispettare fino in fondo, che sicuramente questo è un caso eclatante, però dietro, cioè, se questa è la punta di un iceberg, dietro c'è un iceberg magari dove la clandestinità molto spesso significa anche altre cose. Non riportiamo la discussione sempre sulle solite badanti, nel senso che questo, so che il ministro Maroni sta lavorando e sta perfezionando questa idea di fare sì un aiuto, ma non una sanatoria a 360 gradi, ma di pensare a un intervento a favore delle famiglie. Quindi la badante, la colf, coloro che si occupano dei disabili, degli anziani, dei bambini, e non fare una sanatoria generalizzata magari per regolarizzare magari qualche altra persona. Però che fa ben altre attività. Le sottopongo questo problema. Allora, diciamo, prego, che questo extracomunitario clandestino non ha fatto niente di male, vendeva fiori, aveva incassato quella sera, abbiamo scoperto, 35 euro, è andato a denunciare un reato ed è stato punito. Secondo lei quanti extracomunitari denunceranno dei reati di cui sono testimoni sapendo che possono essere espulsi? Non è un po' una follia? Non mettiamo, come dire, una serie di cittadini in uno stato di serie B e alla fine forse chi delinque continuerà a delinquere perché tanto se ne frega, e invece chi non delinque viene portato in una zona d'ombra in cui non ha più diritti e in cui rischia di addirittura essere penalizzato se compie un dovere civico. Guardi, questa è una visione ovviamente che ci porta un po' all'estremizzazione della visione di quanto è accaduto. Se lei fosse un clandestino denuncerebbe un reato? Io lo denuncerei sì, ma c'è... A rischio di essere espulso? Sì, perché questo fa parte del senso civico. Io sono intervenuto in occasioni, cioè la mia storia lo ricorda, perché comunque ognuno di noi ha una formazione, un senso civico e ha un senso anche della giustizia. E questo a prescindere. Cioè, se poi qualcuno dice, beh, adesso i clandestini non faranno più le denunce, prendiamo atto che ne abbiamo iniziato un percorso per dare tranquillità ai nostri territori. Non tutti i clandestini creano problemi, però è altrettanto vero che noi dobbiamo contabilizzare che la maggioranza della popolazione carceraria in Italia è data da immigrati, e siccome non sono la maggioranza degli italiani, significa che qualcosa non ha funzionato fino ad ora. Le statistiche dicono che in percentuale rispetto al loro numero gli stranieri delinquono meno degli italiani. Non so se questo è un dato del Ministero dell'Interno. Invece le volevo chiedere un'altra cosa. Perdoni, sì. Cioè, allora saranno molto fortunati, perché la popolazione carceraria nella maggioranza è rappresentata da immigrati. Questo è dimostrazione che comunque la loro rappresentanza tra i delinquenti ce l'hanno, e ce l'hanno in maniera molto importante. Sì, questo non vuol dire che gli immigrati siano dei delinquenti. Sì, no, per reati connessi alle... Certo, se ora ci mettiamo a gente perché è clandestino, chiaramente riempiremo le carceri. Molti di quelli che sono nelle carceri sono anche in carcere perché hanno avuto con la vecchia legislazione, 3 provvedimenti di espulsione e sono stati spediti in carcere. Quindi, voglio dire, se li rendiamo illegali è chiaro che finiscono in carcere e aumentano la sua statistica. Io parlavo di reati e mi riferivo a un dato del Ministero dell'Interno sul numero dei reati in proporzione. Credo che Maroni lo conosca bene questo dato. Senta, le volevo chiedere invece una cosa. Tutti parlano di lei come del prossimo candidato alla presidenza della Regione Veneto. So che nella Prima Repubblica si sarebbe risposto no, non ho nessuna intenzione se gli amici me lo chiedono. Invece lei come risponde? Guardi, innanzitutto nessuno me l'ha chiesto. È il leghista più popolare del Veneto, lei questo lo sa? No, ma guardi, io sono stato per 2 mandati presidente della provincia e per 1 vicepresidente della regione. Nessuno me l'ha chiesto, Bossi compreso, nel senso che non mi sono mai posto il problema in questo senso. Le posso dire che queste saranno cose che deciderà Bossi, ma soprattutto partendo da un presupposto che Bossi lo ha già annunciato in più occasioni, l'ho detto anche a Pontida, e lo farà negoziando anche le altre regioni che andranno al voto, perché cioè, ricordiamoci che però il Veneto ora voglio dire, lo sappiamo tutti, il Veneto è una delle più probabili che possa essere assegnata alla Lega, e non mi dica che le dispiacerebbe, ecco, almeno questo. Beh, quando me lo chiederanno mi porrò il problema, per ora non me l'ha posto nessuno. Ma lei era così diplomatico quando prendeva il 70% nella Marca, oppure è Roma che l'ha un pochino io diplomatizzata? Non mi sono diplomatizzato, dico sempre quello che penso, però è altrettanto vero che è come se io le chiedessi se ce le proponessero di fare il direttore di Radio 24. E io direi subito sì, di corsa, ministro, vede, è capitato male. Bene, la sentiremo anche i prossimi giorni. Allora, guardi, le faccio una ancora più maliziosa. Se le dicessero, guardi, può scegliere fra la candidatura di Maroni in Lombardia e quella di Zaia nel Veneto, lei cosa direbbe? La Lega che ne ha una? No, che non sono Bossi, quindi deciderà lui. Ah, ho capito. Perché da noi si rispettano le gerarchie e la Lega funziona, e funziona bene proprio per questo, perché abbiamo solo un capo di riferimento. Bene, sa che la nostra radio è molto ascoltata nel nord-est, anche nel resto. Ah, ok, beh, questo ci fa piacere. E si è risolta la questione delle quote latte definitivamente o no? Guardi, mi rattristo un po', perché il provvedimento che abbiamo fatto poteva essere un provvedimento perfetto. Come lei sa, poi c'è stata una battaglia in Parlamento paurosa, e ci rivolgiamo a oltre 8.000 aziende che hanno una multa sulle loro spalle molto importante. E in un momento nel quale produrre un litro di latte costa 35-40 centesimi il litro e viene pagato 25-28 centesimi, e si trova latte sui nostri territori straniero a 14-15-16 centesimi, lei capisce che far pagare delle multe in questo momento, nel momento nel quale produrre significa rimetterci soldi, sta rappresentando una grande difficoltà. Io spero che si possa trovare la quadra. Del resto questo non è un problema a questo punto solo italiano, visto considerato che ci sarà un consiglio straordinario il 7 di settembre in Europa per parlare solo di latte. Ed è un grande problema, perché alla fine questo sistema mi pare capire che ha privilegiato chi aveva rendite di posizione, no? C'è gente che ha quote latte che non ha più neanche le mucche, è vero? Beh, diciamo che ha privilegiato passato gli stati membri che mandavano dei ministri in Europa non a sonnecchiare e a distrarsi, ma a negoziare, perché noi partiamo azzoppati da un pessimo negoziato dei primi anni 80, dell'83, che ha visto la firma di un nostro ministro che accettava di portare a casa una quota che era pari alla metà del nostro fabbisogno. Senta, invece una cattiva notizia, abbiamo mandato 3 messaggi al 47947 su pomodori e patate e non ci hanno ancora risposto. Non è che ad agosto... Questo è gravissimo, provate a scrivere tipo mela, un altro prodotto, fate la prova, perché gli ascoltatori devono sapere che funziona. Proviamo con la mela. Non abbia sbagliato il numero, però è 47947, se lei mi lascia un secondo provo anch'io. Perfetto, non mi fido. Ottimo, allora proviamo tutte e due. 47947. Io scrivo mela, provo con mela. Mela, certo. Stiamo facendo in diretta una prova. Questo È probabile che magari ci sia qualche ortaggio che magari oggi non ha il prezzo. Cioè non ha, Quindi viene aggiornato ogni giorno con le quotazioni del mercato? Quotidianamente, questo glielo posso garantire. E abbiamo i prezzi, comunque ricordiamo il consumatore, abbiamo avuto, eccolo qui, io ho già la risposta. Ah, Gloria, lui, il ministro ha avuto la risposta subito, mannaggia. Quant'è la mela? Allora, SNS consumatori, confermo che è 47947, il 31 del 7, l'ultimo rilevamento fatto, mela golden, prezzi euro, all'ingrosso 1,12 al chilo. Ecco. Alla vendita... E io qua ora devo. Io pensavo che lei licenziava qualcuno del. Adesso devo licenziare qualcuno qui in redazione. Adesso proviamo noi. Proviamo col mandarino, Gloria, per cortesia. Dica. È fuori stagione, mi perdono. Il mandarino è fuori stagione, proviamo con la banana. Ecco. Melone, che è un frutto di stagione. Melone. Benissimo. Comunque, provate anche voi da casa. Prezzo all'ingrosso 1,12, vendita al nord 1,85, al centro 1,80, al sud 1,60. Torniamo al vecchio discorso, certo, del costo della vita. Questa idea è venuta a lei, ministro? È un'idea che noi abbiamo sviluppato, non è stata una mia idea. Io l'ho sviluppata, l'ho perfezionata e le dirò che l'ho anche resa più, come si può dire, fruibile, perché prima era solo qualcosa di per esperti di informatica. Oggi si fa col telefonino. Infatti abbiamo 1.200.000 accessi al mese. Sono tantissimi. Adesso più grazie a Radio 24, se noi andiamo subito a 1.500.000. Io ne ho approfittato. Senta, può confermare che funziona il servizio? Guardi, stanno provando, perché io non posso usare un telefonino qui nella cabina, ma adesso fra un attimo vediamo se scopriamo il melone. 47947, digitano mela e mela. Hanno di ritorno nel giro di qualche secondo il messaggio. Perfetto. Senta, nel frattempo che questo esperimento viene portato a termine, le chiedo un'altra cosa. Qual è il primo provvedimento che porterà in Consiglio dei Ministri appena riaprite l'attività? Noi abbiamo oggi da portare avanti, come le ho detto, l'origine, che è un punto di fermo di difesa dell'agricoltura e della salute dei nostri cittadini. E l'altro aspetto fondamentale è quello di ricordare a tutti che con l'ultimo DM anticrisi, diventato legge, noi abbiamo avuto inserita una parte che interessava a noi, che è quella della terra ai giovani, quindi i terreni demaniali dati ai giovani per questo nuovo rinascimento agricolo, per far nascere nuove aziende agricole. Ma i giovani faranno richiesta di questo? Ma non è che ha risposto lei? No. Molto probabilmente abbiamo scelto un ortaggio che oggi non ha prezzo rilevato. Ho capito, scelgono sempre questi ortaggi. Il melone sappiamo che è 1,55, ma questa è una cosa bellissima. Senta... È un bel servizio, anche perché uno lo può fare di fronte al banco del supermercato piuttosto che dall'ortolano, dal rivenditore. Ha pensato che potrebbe perdere un po' di voti dei fruttivendoli? Ma guardi, cioè a noi interessa dare i servizi e fare in modo che la gente sia contenta. Sì, era un bel servizio. Bene, allora grazie di tutto. Dove va in vacanza, ministro? Grazie per l'ospitalità. Dove va in vacanza, ministro? Guardi, ancora non ho deciso, però molto probabilmente resterò in Veneto quest'anno. Giampi da Venezia mi ha detto: ho appena provato con il latte e funziona. Ha capito? Vede con i miei difensori d'ufficio. Mamma mia, è da Venezia, deve essere un militante della Lega. È sicuramente una persona che sa usare il telefonino. Ma lei che pensa di quell'ordine del giorno sui presidi del Sud che è stato approvato. Guardi, mi creda, non parlo di cose che non conosco, me lo sento da lei adesso, di cosa si tratta? No, si era fatto un ordine del giorno nella provincia, credo, di Treviso, possibile, in cui si diceva che si voleva dare priorità ai presidi del nord rispetto a quelli del sud. No, quello era sui concorsi, era della provincia di Vicenza. Ah, di Vicenza, di Vicenza. Ma penso si riferisse a un fatto concreto, che è quello di bandi fatti per poi vedere aggiudicate le posizioni per poi avere dei trasferimenti d'ufficio da subito. E, però la questione l'ho seguita marginalmente perché mi stavo occupando di latte e di vicende del latte, per cui non glielo so. So che comunque c'era di fondo una giusta ragione. Non sono amministratori della Lega, ma va ricordato che hanno fatto una bella operazione. Ministro, abbiamo creato una febbre. Un altro ascoltatore: io ho provato con pomodori e ho ricevuto 3 risposte. Allora vi mettete nei guai, mi spiace per voi. Mannaggia, io speravo che non funzionasse invece. Grazie, buone vacanze. Torniamo a ronzare, abbiamo discusso amabilmente ma anche seriosamente col ministro Zaia, siamo entrati in questo trip del gioco del numero verde 47947, un altro ascoltatore con Fragolo ha avuto una risposta immediata. Carlo, sei stato fortunato, sentiamo i titoli del TG5. Indagine dell'Agenzia delle Entrate sull'eredità contesa dell'avvocato Agnelli, una cifra superiore al miliardo di euro depositata in Svizzera, mai dichiarata al fisco italiano. 2 anni fa Margherita Agnelli si rivolse alla magistratura per conoscere l'inventario dei beni del padre. I vescovi contro la decisione del TAR che esclude i docenti di religione dagli scrutini, sentenza pretestuosa. Il ministro Gelmini annuncia il ricorso al Consiglio di Stato. Festa alla INSE di Milano dopo l'accordo della notte. Il gruppo Camozzi acquista l'area e riassume i dipendenti. La fabbrica potrebbe rimettersi in moto già ad ottobre. Feroce rapina nel Casertano. Un 50enne che viveva in casa con la madre, legato e ucciso a calci e pugni dai rapinatori, fuggiti con 5.000 euro. Da Londra a Parigi e la Costa Smeralda, rapine milionarie e ladri spregiudicati. 47 milioni in gioielli a Londra, 6 a Parigi, 11 in Costa Smeralda. Michael Schumacher spiega i motivi della rinuncia alla Formula 1. Troppo dolore al collo. Mi dispiace per Ferrari e tifosi. Volevo aiutarmi. Ritorniamo. C'è stato il caso Schumacher, grande paradosso italiano, grande simbolo. Ha scritto oggi su Repubblica Merlo. In effetti il ritorno che non ritorna è un po' un nostro male nazionale. E invece continua la febbre dei prezzi. Peccato abbiamo congelato Zaia, perché avevamo il dato del melone che diceva che costava 1,25, però un ascoltatore del sud ci dice: qui a Foggia il melone costa 1,70 e l'ho comprato oggi. Quindi probabilmente il messaggio arriva, ma in alcuni casi corrisponde o non corrisponde. Beh, certo, non può corrispondere ai prezzi, basta un fruttivendolo che alza. Il ministro si riferiva ai prezzi all'ingrosso, credo. Allora sentiamo Arturo da Milano. Buongiorno, anzi buonasera, chiedo scusa. Buonasera. Allora, io volevo solo fare 2 piccole riflessioni sul discorso delle gabbie salariali, cosiddette gabbie salariali, perché così si fa prima a sapere di cosa ci stiamo parlando, no? Uno è questo, e secondo me col discorso delle cosiddette gabbie salariali si può correre il rischio di andare ad un gioco al ribasso, nel senso che non è sicuro che si possa fare una contrattazione equanime se lo Stato interviene e ci dice qui va così e qua va cosà. Nel senso, il rischio più grosso con la fame di lavoro che c'è in giro è che si vada ad un ribasso tout court, come nelle grandi aste. E quindi il rischio grosso è che si santifichi un discorso di massimo ribasso sul costo del lavoro, sul lavoro. Tenendo conto, fra l'altro, anche di una cosa, che purtroppo il mercato del lavoro è molto ingessato, che quindi c'è grande difficoltà a fare cambio, andare da un'azienda all'altra, che non è una cosa semplice. Questo è uno. Pronto? Sì, la sto sentendo. Questo è uno, ed è solo un timore. Poi bisogna vedere come si possono guardi, dare. Condivido, aria. Sono un po' scettico sulle gabbie. Mi fa piacere che lei cosa vedo condivide. Che anche i leghisti hanno un po' corretto il tiro, avevamo poco fa il ministro Zaia che ha detto chiamiamo le contrattazioni locali. Sì, solo una nota sul famoso discorso della parola o termine federalismo. Il federalismo, scusi se mi permetto di sentenziare, no? Federalismo una volta serviva per unire più entità diverse, metterle insieme e farle ragionare rispettando le proprie differenze e stando tutti insieme. Tanti popoli eventualmente potevano confluire e fare una nazione, la storia tedesca ce la insegna ad esempio. Qui il federalismo mi sembra che però stia diventando un grande paravento per fare le piccole patrie e fare poi alla fine della favola una grande divisione. Io non troverei poi neanche tanto strano il fatto che prima o poi il Sud decida di staccarsi. Ah, lei vuole la Lega Meridionale? No, guardi, io preferisco tenere il paese unito con le sue imperfezioni. L'unica cosa su cui non siamo d'accordo. Ah, provocazione. Se ricordiamo no, bene. Ma non esageriamo con le provocazioni, sennò si arriva a dividersi troppo. No, beh, comunque... l'ho capito, ma provocazione per provocazione, se ben ricordo, uno stato sovrano come quello sabaudo ha invaso altri stati sovrani e ha detto che si faceva l'Italia unita. Vabbè, non mette, e lì così farebbe contento Zaia, perché sul Risorgimento lo hanno sempre avuto i loro dubbi. Allora, qualche sms prima del TG della 7. Telese, se non la smetti di fare il pirlone, veniamo a spianare i sette colli con Ruspe e Badili. Michi, simpatizzante leghista, ma preannuncia che scherzo. Guarda, Michi, qua il nostro regista ha fatto un gesto romanofono che si fa con la mano e col gomito a Roma, che non è simpaticissimo. Ma stai scherzando, quindi sono molto contento. Sentiamo i titoli del TG della 7. Lei attacca la sentenza del TAR che esclude i professori di religione dagli scrutini. Una decisione vergognosa, dicono i vescovi. Uno dei comitati promotori spiega alla 7 le ragioni della loro iniziativa ed il ministro Gelmini impugna il provvedimento. Dietro fronte di Berlusconi sulle gabbie salariali, ho solo parlato di contrattazione decentrata, precisa il Premier, e Fassino attacca, uno strumento vecchio di 50 anni. Odio Gomorra, Roberto Saviano in esclusiva alla 7 rivela il suo amore e odio per il libro che lo ha reso famoso, costringendolo però a un'esistenza blindata. Non temo di morire, dice lo scrittore, ma di vivere in questo modo. La vita avventurosa di Galileo Galilei è l'ultimo viaggio di Marco Paolini, che esplora le scoperte dello studioso che 400 anni fa rivoluziona i principi della scienza, in scena a Bassano del Grappa, per passare poi da settembre nelle scuole. Ecco, la zanzara torna in studio, vedo che continua la febbre del prezzo degli ortaggi, mi arrivano messaggi non firmati, Meloni e Selunga 0,95, vi giuro che non so che cosa significhi, mi dispiace ma siete una delusione, stasera riscopro le caculi perché i prezzi ritornano ma sono sballati, ho provato con Anguria e ho ricevuto dei prezzi che non tornano. Allora, io all'inizio abbiamo verificato che il servizio funzionasse. Qui per esempio un altro ascoltatore dice che non arriva niente, invece arriva, poi verificheremo magari più avanti se corrispondono effettivamente ai prezzi all'ingrosso nei mercati locali. Continuate, non dovevamo farla questa cosa. Mi arriva un altro messaggio: l'anguria, i prezzi sono sballati, l'anguria è da un bel po' che si vende a 20 centesimi e non a 75. Ma scusate, ma pensate che io possa stare in tutti i mercatini a sapere quanto è il prezzo del taglio? Ditecelo, segnalatecelo, lo ricorderemo al ministro Zaia, lo rinviteremo, però il servizio sicuramente funziona. Eccone un altro: ho appena comprato un melone, 1,375 al chilo alla Despar di Trento, lo dica Zaia, glielo dico. Più di gabbie salariali, io parlerei di inganno verso i lavoratori. Un altro messaggio: Gramellini preferiva i moralisti come Agnelli con il conto in Svizzera, che pena. Lei è lo stesso dall'inizio, cioè con Gramellini, questo forse sarà il terzo, mi pare, non lo so. Per le mele 4 sms, di cui un invito alla newsletter. E va bene, ce l'invito alla newsletter. Allora, abbiamo un grande personaggio, lo scopriremo insieme adesso in collegamento con noi, Fabrizio Azzara, il ribelle delle coste della Sardegna. Sapete che ci ha colpito questa storia, l'abbiamo letta sulla stampa, sulla Nuova Sardegna, cioè di un gruppo di cittadini che ad Arzachena si sono messi a combattere con Flavio Briatore, pensate voi, per la giurisdizione, la proprietà pubblica di una pineta. Allora lo abbiamo chiamato, lo stiamo chiamando, perché ci piacerebbe che ci raccontasse lui questa storia, questa ennesima guerra fra indigeni e ricchi nelle terre della Sardegna. Eccolo qui, pronto? Sì, buonasera. Buonasera Fabrizio. Buonasera. Allora, che cosa sta accadendo ad Arzachena? Lei fa il capopopolo? No, non faccio il capopopolo, assolutamente. Sto cercando di... Quanti anni ha? Io ho 37 anni. Per chi è stato eletto? Per chi? Per che lista? Per una lista civica di Arzachena. Una lista civica dove sono io, diciamo, sono stato eletto dal gruppo Popolo delle Frazioni che abita qui ad Arzachena. Ho capito. Che cosa è successo con questa pineta di capriccioli? Ma guardi, mettiamolo su questo punto di vista. Noi non abbiamo nessuna, non abbiamo nulla contro il signor Briatore, contro i nostri investitori. Non accettiamo che la nostra amministrazione, che oggi governa, non dia delle risposte chiare ai nostri cittadini. Mentre per, ma per qual è il problema? Ci faccia capire. Cioè, Briatore e il suo locale hanno iniziato a inglobare una pineta di proprietà demaniale dentro il loro, la loro disponibilità? Ma guardi, quello lì è un terreno dell'ESIT, quindi l'ente della regione, che ora non esiste più l'ESIT, però oggi è un terreno regionale dove è stato costruito un centro servizi, dove sono dei bagni, dove c'è un ristorante, dove c'è un bar. Sicuramente è stato inglobato in questa pineta un bosco che è lì da centinaia di anni, che oggi è stato così quasi fatto scomparire per dar vista dal ristorante verso il mare. Cioè hanno tagliato gli alberi? No. Non tutti. Ma qualcuno l'hanno tagliato? Sì, hanno potato, hanno tagliato, hanno aperto quello che prima era una boscaglia, una pineta di ginepri, di lentischi e di mirto, oggi è qualche rametto di ginepro. Ho capito. Ma la cosa ancora più grave è che hanno consentito di mettere un pontile su una spiaggia conosciuta, penso, da tutta l'Italia, da tutto il mondo, che è Capriccioli, una spiaggetta di 50 metri lineari. Oggi ci troviamo un pontile con una rampa di un corridoio di lancio che non era prevista neanche nel nostro pool, che è il piano utilizzo litorale del comune di Arzachena. E come hanno fatto a metterlo? Mi fa una bella domanda, è questo che abbiamo chiesto anche noi più volte in consiglio e ad oggi non abbiamo avuto delle risposte. Ma è un chiare. Pontile fisso? È una pedana galleggiante con una rampa che poggia sul terreno. Quindi era soggetto a concessione edilizia, mentre oggi non c'era concessione edilizia. Oh, ultima cosa, voi che cosa avete fatto? Siete arrivati a fare una manifestazione? Ma guardi, noi abbiamo fatto diverse cose. Abbiamo iniziato prima di tutto a fare delle interpellanze in consiglio, chiedendo delle spiegazioni, chiedendo una linea alla nostra maggioranza, che non ci ha dato ancora a tutt'oggi. Quindi lasciando il nostro territorio oggetto di conquista da parte di chi che sia, o almeno di pochi e furbi e dei poveri cittadini, lavoratori che si trovano sempre la strada sbarrata dai no del nostro comune. Quindi noi vogliamo una nostra linea chiara, precisa per tutti i cittadini di Arzachena e del continente europeo. Quindi ci deve essere una linea: ad Arzachena si può fare questo e questo non si può fare. Quindi noi siamo mossi in tutte le sedi opportune, chiedendo di arretrare questi gazebi, chiedendo di ricostruire la fascia di vegetazione che c'era, che hanno tagliato, chiedendo di togliere il pontile. Ad oggi tutto questo non è successo, quindi siamo stati costretti a fare Avete aggredito? No, avete occupato le terre. Che avete fatto? Dica concretamente. L'ultimo atto abbiamo fatto un esposto ai carabinieri di Arzachena. Visto che non avevamo risposte, abbiamo fatto una raccolta di firme pacifiche lì sul territorio. Stiamo difendendo dei cittadini di Arzachena che sono stati, diciamo così, intimoriti con delle richieste risarcitorie. E ce n'abbiamo uno al microfono, Fabrizio Pirina, giusto l'accento? Sì, Fabrizio Pirina. Carpentiere, 23 anni, lei 26 anni. 26 anni, leader del sit-in per salvare la spiaggia. È stato colpito da denuncia di risarcimento di 380.000 euro. Effettivamente sono due denunce, non una. Una è penale e l'altra è un risarcimento di 380.000 euro. Come ha fatto a fare 380.000 euro di danni al billionaire? Ma io non, lei e Fabrizio non siete dei tipacci. Non ho mai alzato le voci. Non ho mai, addirittura proprio, ma mai, e ci sono i testimoni che lo diranno, Io ho solo messo una borsa dove nella riunione precedente il sindaco mi ha detto: quello è tutto comunale, è tutto per voi, vi metterò, questo ci sono gli assessori testimoni, vi metterò addirittura delle panchine dove hanno disboscato, anche se è un po' crudo la disboscamento che hanno fatto, hanno detto, vi metterò delle panchine per poter mangiare, e io gli ho fatto pure la battuta, mangeremo al sole perché gli alberi non ci sono più, però non ti preoccupare, addirittura mi fece questa battuta, se lui il sindaco mi disse al suo tempo, se loro mettono qualche poltrona chiama i vigili, perché ancora non c'erano i gazebo. Io l'hanno messa? Non è che hanno messo la poltrona, io arrivo la domenica come tutte le domeniche, arrivo lì e non c'era una poltrona, c'erano 12 gazebo messi. Madonna. Allora ci fermiamo un attimo perché abbiamo le strade in diretta, subito dopo torno a sentire Fabrizio Azzara e Fabrizio Pirina, due cittadini della Sardegna che difendono le loro spiagge. Strade in diretta. Sul grande raccordo anulare di Roma, coda per un incidente tra Ostiense e Ardeatina in carreggiata esterna. E prudenza sempre per un incidente anche sulla 26 dei trafori tra Masone e Ovada verso Gravellona Toce. Al traforo del Monte Bianco, coda per entrare in Francia con tempi di attesa di circa mezz'ora. Un veicolo in avaria è segnalato sulla 8 Autolaghe all'uscita di Busto Arsizio in entrambe le direzioni. Per lo stesso motivo, attenzione anche sull'Autosole tra Parma e Terre di Canossa verso Bologna. Infine si rallenta per un incendio sulla statale 309 Romea tra il bivio per Casal Borsetti e Bellocchio. Il numero verde per le vostre segnalazioni è 800 19 7313. Per ora è tutto, Strada in diretta torna tra mezz'ora. La Zanzara. Avete visto, l'interruzione è stata breve. Allora eravamo arrivati a questa richiesta di esercizio danni per 380.000 euro al fatto che lei ha visto i gazebo su quella spiaggia. Ho visto il gazebo, io sono arrivato lì la mattina, ho visto il gazebo e ho messo la borsa, una singola borsa, dove notoriamente mangiavamo da circa 10-15 anni minimo, da quando ero proprio piccolissimo mangiavo. E arriva l'agente, ha detto la sicurezza, e mi disse, perché ci conosciamo di Arzaghen, anche lui mi ha detto, guarda, tu qua non puoi stare. No, ho detto, a detta del sindaco siete voi che non potete stare qua. Ho detto, la borsa rimane qua, e questo è il fracasso che ho fatto, la borsa rimane qua, io adesso ho delle telefonate e ho chiamato il genero del sindaco, che è un delegato ai lavori pubblici, un altro assessore che è Giovanni Pala, e ho chiamato che è un assessore all'ambiente, e un altro delegato per chiedere conferma di quello che mi avevano detto nella riunione precedente. Loro addirittura, all'assessore all'ambiente, mi disse no, tu devi restare lì, come ma stiamo scherzando, ma qua niente, questa è proprio la punta dell'iceberg che io ho fatto del massimo che posso aver fatto di protesta, perché poi tutto si è svolto nelle sedi del comune qua e là. Poi quando siamo arrivati a fare questa manifestazione, ma tra l'altro manifestazione per modo di dire, perché la manifestazione si è svolta così, io ho detto Finalmente, però, perché Fabrizio era un po' reticente, mi scusi, so che è ancora in linea su questo, avete fatto la manifestazione. Sì, ma la manifestazione l'hanno fatta molto più enfatizzata loro che noi, perché si è svolta così. Io la domenica che ero al mare ho detto a quelle famiglie che di solito vengono al mare, ci rivediamo qua la prossima domenica, ditelo pure a quelli che magari certe volte non sempre si va tutte le domeniche alla stessa spiaggia, a volte magari uno cambia, ditelo anche a quelli che di solito venivano di venire, che così facciamo una raccolta firme, ma non il fatto di occupare qua e là, ma perché io conosco le persone che sono da una parola in su, loro sono a denunciare, quindi che ho detto facciamo una semplice raccolta firme, questo è quanto. Poi giornalisti e quant'altro, loro hanno chiamato polizia, carabinieri, vigili, questi hanno chiamato loro, io non ho chiamato neanche i giornalisti, cioè nessuno. Quando siamo arrivati lì e abbiamo messo un tavolino fuori nella spiaggia, però proprio da loro, e abbiamo iniziato a fare questa raccolta firme lì all'ombra, sotto l'ombrellone. In questo è arrivata la polizia chiedendoci documenti, a modo mio di pensare un po' in mala maniera, perché a me un poliziotto se viene a chiedere i documenti e io gli dico adesso glieli do, e lui mi dice no, se no lei è passibile, e io gli ripeto ma glieli sto dando, mi dia il tempo di arrivare alla borsa, e lui continua a dire perché se no è passibile dell'articolo mi dia il tempo di arrivare, cioè in maniera che poi i giornali hanno pure scritto che era una forma intimidatoria, non lo so, io la prendo così, perché qua da una parola in su ti denunciano, ho paura che mi arrivi un'altra denuncia. Ho capito. Fabrizio, a che punto sono ste denunce? Sono un modo, diciamo così, semplicemente deterrente o è una cosa seria? Grazie. No, è una cosa seria, per noi è una cosa seria. So che il maresciallo ha già fatto un sopralluogo sul posto con i tecnici del comune. Aspettiamo nuovi eventi. Spero che succeda qualcosa, ma non per il viatore, per difendere il nostro territorio e i nostri cittadini. Cittadini possono essere gli altri. A lei sta antipatico obbligatorio, però lo confesso. Assolutamente no, sì. Perché... No, assolutamente. Guardi, l'amministratore della Bile Nardice è un mio parente, quindi immagini un po' che guerra stiamo facendo. Che guerra, che... Una guerra civile è diventata, una piccola... Ma no, stiamo cercando di difendere il nostro territorio da probabili aggressori dal nostro territorio e al nostro ambiente, perché se ci distruggono l'ambiente, la Costa Smeralda forse è uno dei pochi elementi di pregio che ha ancora intatti. Su questo sicuramente siamo d'accordo, essendo nato a Cagliari, un pezzo di cuore in quella terra ce l'ho. Grazie mille, e ringraziamo i nostri amici di Arzachena, Fabrizio, e passiamo in un altro luogo dove Gianni Ippoliti sta minacciando un gesto futurista e sovversivo. Gianni, sei in linea? Buonasera. Ma abbiamo letto questa notizia, ti abbiamo chiamato. Fra le follie dell'estate c'è anche un crimine che tu ti appresti a perpetrare. Ma credo che sia l'unico atto riparatorio che possa essere fatto contro chi continua ogni volta a deturpare la statua, il monumento di Aspetta, Manuele Arcuri. Diciamo quale? Tu hai detto distruggerò la statua di Manuele Arcuri. Sì, perché... Ammettilo, allora, prenditi le tue responsabilità, no, Lecce. No, questo sì, ma la distruggo perché anche lei è d'accordo, anche Manuele è d'accordo. Quando 7 anni fa l'amministrazione comunale di Porto Cesareo e gli operatori turistici mi chiesero disperatamente qualche idea per fare venire dei personaggi, per fare parlare di Porto Cesareo, con notizie che non fossero l'abusivismo edilizio, perché è la capitale mondiale dell'abusivismo edilizio, io dissi una cosa molto semplice: se fate il monumento a un personaggio vivente, questo lusingato viene, e viene gratis, perché tutti i personaggi si spostano a pagamento. Chi e lei venne? Certo, venne lei, ma vennero tutte le televisioni nazionali, vennero 60.000 persone quella sera, e da quel giorno chiunque va a Porto Cesareo si fa la foto ricordo sotto la statua dell'Arcuri. Se non che, veniamo al se non che, alcune persone non vogliono la statua lì. Sono dei pescatori che volevano lì una statua che raffigurasse la moglie del pescatore. Allora basta fare una statua che raffiguri la moglie del pescatore e metterla anche sul lungomare. Ma perché è molto diversa la moglie del pescatore da Manuele Arcuri? Abbastanza. Però al di là dell'ironia, il sindaco ha fatto un comunicato stampa in cui elogia l'idea che ha avuto. Dice che grazie alla statua milioni di persone hanno conosciuto Porto Cesareo, che tutta la gente che viene si fa la foto. Anche ora stiamo facendo pubblicità in diretta, io non sapevo che era così. Però hanno deciso la rimozione della statua. Allora io ho detto, siccome la delibera comunale dice di rimuoverla ma non dice dove la mettono, io ho detto facciamo una cosa, la distruggiamo e buonanotte, perché ogni volta che è stata restaurata c'era uno che con uno spuntone rompeva il naso. Allora Manuele Arcuri dice, come Cleopatra, esatto, tutti si fanno la foto con la mia immagine deve andare in giro col naso rotto. A questo punto distruggiamole e buonanotte. Quindi domani alle 17:30 esistono dei restauratori del naso di Manuele Arcuri che hanno già operato su questa statua. È lo scultore, il povero scultore Santino De Matteis, che lui stesso 3 volte è stato convocato per restaurare il volto, ma ogni volta c'è un signore che tutti conoscono che tranquillamente va lì con una spranga e la rompe. E allora, questa è la mancanza del rispetto delle regole. Ma voglio dire, ma anche la mancanza di quel minimo di far ragionare chi non conosce il marketing strategico, cioè una cosa che a costo zero ha fatto conoscere la località in tutto il mondo deve essere tenuta in quella maniera. A quel punto ho detto io, gesto futurista, l'abbiamo creata, la distruggiamo. Sentiamo una telefonata su questo subito. Pronto? C'era una chiamata in diretta. Hanno distrutto pure la chiamata. Hanno quindi distrutto, diciamo, la chiamata. Ed diciamo è arrivato lo sprangatore. Diciamo che comunque deve essere una cosa che serve a far ragionare chi non riesce a capire. Se non vi interessa la promozione a costo zero di una località, vuol dire che non capite niente. Ma lo farai grazie davvero questa cosa? Sì, è che mica sto scherzando. E con che strumento andrai a distruggere Emanuele? Il piccone. Col piccone. Tra l'altro c'è un sacco di turisti che, siccome non c'era niente da fare questi giorni, già domani arrivano con i martelli e le mazze tutti e facciamo ripristiniamo un minimo di logica attorno a questa vicenda pirandelliana che francamente deve far solo che sorridere perché è assurdo, insomma. Ecco, è tornato l'SMS, ma è vero che ci fu una raccolta di firme di donne di Porto Cesareo arrabbiate o gelose? No, le donne di Porto Cesareo volevano da tempo, cioè da prima della nascita della statua dell'Arcuri, volevano una statua che raffigurasse la moglie del pescatore. Siccome una cosa non esclude l'altra, non è che se uno fa la linea C della metropolitana distrugge il Colosseo, si fanno tutte e due le cose. Cioè si potrebbe fare la moglie del pescatore con un bacio saffico alla statua di Emanuele Arcuri, tutte e due insieme. Indire un concorso internazionale, create voi questo ircocervo, questa figura mitologica metà donna del pescatore e metà donna del pescatore, può essere qualcuno che potrebbe, scenari sconfinati, capito? Comunque la notizia Gianni, è l'ultima ti sento tenendo. In forma smagliante, ti volevo chiedere una cosa, a che ora fai procedi la demolizione? Alle 17:30. Ah, porca miseria, non ci siamo. Non potresti posticipare alle 6:30 e ci fai sentire, guarda, in diretta? Mi conviene seguire quello che hanno già detto a Napoli, cioè i numeri del Super Enalotto da giocare domani sera. Ecco, quali sono? Bravo. Sono la data di nascita dell'Arcuri. Allora è 8 8 1 1 77 77 e la data della distruzione della statua, quindi la data di domani che è, certo, cos'è? 13 domani. 13 13 8 8 e 9 9. Ecco. Quindi a Napoli già hanno dato la chiave, diciamo. E le misure dell'Arcuri anche, o almeno della statua. Le misure dell'Arcuri le sappiamo tutti, però non si può giocare due volte 90, perché 90, 60, 90. Il sindaco di Latina, leggo adesso un'agenzia, in questo momento si è offerto di prendersi lui la statua e metterla nella città natale della Manuelona, certo, nazionale. Adesso vediamo, si potrebbe, certo, fare un'asta benefica, certo, con i pezzi della statua. E c'è anche il problema del naso, però continua a esserci il problema del naso. Il naso è stato trafugato, tra l'altro, quindi certo, quello è un gronchi rosa, c'ha un valore inestimabile, un pezzo unico, insomma. Mi fanno notare la mia possente redazione che c'è 2 volte 8. Porca miseria, dovete distruggere. Eh sì, perché 8177 13809. Allora facciamo una bisogna cosa, distruggerla dopo domani. No, possiamo bisogna distruggerla il 9. Come si può fare per evitare 2 volte 8? E certo, è un dramma. Ah, si può fare questo. L'ora della distruzione. No, calcolando che è il 2009, si può giocare 20 e 9. Ah, al 20 posto della e 9. Ecco. Ah, ho capito, va bene. Gianni, ti sento in gran forma e anche teniamoci voi, in onda e grazie mille. A presto. Ciao. Una cosa, posso dire una cosa? Cavolo. Sulle gabbie salariali. Ma i parlamentari del sud prenderanno lo stesso stipendio di quelli del nord? 15% in meno. No, l'altra sera cercavo disperatamente 800 24 024 di chiamarvi, non ho preso la linea. Bravo, è geniale. Deputati, onorevoli e senatori, quelli del sud avranno lo stipendio decurtato. Se lo devono, secondo te, per coerenza, se lo devono ridurre, no? Come comunque, minimo. Se la vita al nord costa di più, io chiedo che al sud la benzina costi il 20% di meno, però. Questo è stupendo. O no. Basta, stai già dicendo troppo. Grande Ippoliti, scrive Giuse e siamo d'accordo. Ciao, Antonio da Trapani. Salve, pronto? Salve. Sì, Antonio da Marsala, per l'esattezza. Ah, da Marsala, ci mancherebbe. Sì, Marsala, ok. Niente, innanzitutto complimenti, finalmente riesco a ascoltare la Zanzara senza che mi sia cartocci il fegato in continuazione. Comunque, volevo introdurre un altro argomento. Mi fa abbastanza specie vedere come i mezzi di comunicazione trattano le notizie, altre quasi per niente. Il ministro dell'istruzione ha subito preso posizione nei confronti della sentenza del TAR Lazio degli insegnanti di religione. Mi sente? Sì, sì. Sì, sì. Niente, il discorso è così. Innanzitutto la CEI e la Chiesa si sveglia dopo mesi di torpore, comincia a condannare qualcosa. E il ministro subito si mette sull'attenti, leggo semplicemente quello che ha detto il ministro. Due righe. L'ordinanza del TAR tende a sminuire il ruolo degli insegnanti di religione cattolica, come se esistessero docenti di serie A di serie B. Al contrario, ritengo il ruolo degli insegnanti della regione vada accresciuto e valorizzato. Adesso io sono uno di quei circa 17.000 insegnanti precari, da 10 anni insegno, con abilitazione, laurea e tutto quanto, e che da settembre probabilmente sicuramente moltissimi di questi 17.000 sono tutti, saremo a spasso, perché c'è stato un taglio incredibile di cattedre, 10.000 cattedre in meno. Adesso praticamente il ministro si preoccupa subito di parlare di insegnanti di religione che non sono di serie B, adesso mi chiedo gli insegnanti precari che serie sono, considerando pure che gli insegnanti di religione, se sono precari, hanno gli scatti di anzianità e tutti gli altri insegnanti invece precari non hanno gli scatti di anzianità, non si sa per quale motivo, tanto è vero c'è stata anche un'altra sentenza che dà ragione agli altri poveri precari. Ho capito. E quindi è interessante vedere come subito a difendere l'insegnante di religione, ma questi 17.000 più qualche altro migliaio di ATA, quindi Bidelli e chi li difende? A settembre ci saranno 20.000 insegnanti praticamente cacciati, il più grande licenziamento di massa nella storia della Repubblica. E in questo, e in agosto, lo stanno facendo in agosto, non ne parla nessuno. Lei ne ha parlato dai microfoni Radio 24, lo speriamo che a qualcosa serva. Eccoci qua, torniamo a zanzarare, abbiamo l'ultimo ospite della serata che ci racconta una cosa divertente, un giornalista che oggi ha scritto un pezzo molto interessante, Stefano Ciavatta, buonasera. Buonasera, buonasera Luca. Che oggi ha avuto una bella idea sul Riformista, raccontandoci la storia prodigiosa della Death List. Di che si tratta? Allora, Death List è un sito, innanzitutto un sito britannico, inglese. E ogni anno dal 1987 i responsabili di questo sito, un comitato di redazione con gli utenti, i membri del forum, stilano, credo ad aver capito, insomma, a fine anno, una lista delle celebrità che nell'anno nuovo, in questo caso il 2009, dovrebbero morire, quindi una classifica a scadere. Mazza, una cosa amena, eh? Sì, sicuramente è una cosa che sfiora. Sono delle previsioni, c'è chi gioca al Super Enalotto, esatto. E chi gioca a dire oh, ma in chi schiatta quest'anno? Non si vince nulla, si vince soltanto il gusto un po' grottesco di aver indovinato una previsione così, così funerea, insomma. Ci sono anche qui delle regole, insomma, perché. Allora ti fermo un attimo perché la cosa è interessante. Stefano, sentiamo insieme i titoli del TG2, che è l'ultimo dovere che abbiamo. TG2. Il ministro Gelmini ha annunciato il ricorso contro la sentenza del TAR del Lazio che esclude i professori di religione dagli scrutini. Bieco illuminismo, così la CEI aveva commentato la sentenza. Il quotidiano inglese Daily Mail pubblica 3 foto di Berlusconi in accappatoio sul pontile di Villa Certosa. L'avvocato Ghedini, violata ancora una volta la privacy del premier, legge da cambiare. Ancora morti in montagna, 3 vittime in Lombardia e Alto Adige, solo una donna italiana e 2 turisti stranieri. L'alpinista De Stefani, la montagna non tradisce, siamo noi a sbagliare. Censis, una famiglia italiana su 10 dipende da badanti e collaboratrici familiari. Sono 1,5 milioni in maggioranza extracomunitari alle prese ora con le nuove norme per la regolarizzazione. La febbre del Superenalotto contagia tutti. In Germania un quotidiano e una compagnia aerea mettono in palio biglietti gratis per venire in Italia a giocare. E da noi una giunta comunale si autotassa per giocare un super sistema. Allora, avete visto, i titoli del TG2 ci hanno portato una novità. Le foto di Berlusconi in accappatoio. Ghedini si è arrabbiato, ma insomma, mo in accappatoio non mi sembra la fine del mondo. Allora, stavamo parlando con Stefano. Stefano, chi sono i più gettonati nella classifica della Death List? Cioè, chi è che ci si aspetta che schiatti? Ma la Death List ha una classifica abbastanza democratica. Al primo posto c'è un rapinatore, poi un terrorista e al terzo posto c'è un architetto. L'architetto non ha colpe, ha soltanto la colpa di avere 102 anni e quindi il brasiliano Oscar Niemeyer, tra l'altro è uno degli autori di Brasilia, la città del futuro. Niemeyer, il grande architetto, come no? E il secondo posto invece è uno dei, anzi l'attentatore principale della strage di Lockerbie fine anni 80. Quanti anni ha? che ha 57 anni, ma è stata diagnosticata una malattia. Terzo? E il primo invece classificato è Ronnie Bix, il mitico rapinatore della grande rapina al treno inglese, la rapina più importante al mondo, insomma, il bottino più ingente, che ha 80 anni e che è stato scarcerato in questi giorni. Per motivi? Per motivi di... No, è stata concessa la grazia, comunque per motivi anche di salute, e la death list non vedeva l'ora di averlo Ma già... Ma il Castro dove sta piazzato, che ogni anno, da questo, come raccontava in tuo pezzo, delude le aspettative dei gufi? Fidel Castro in questo momento è undicesimo e l'anno scorso era nono, quindi in un certo senso ha guadagnato posizioni. Ed è quello che ha più post, quindi nei forum è il personaggio più dibattuto, insomma il suo carisma, volente o nolente, resiste ancora. E l'italiano più gufato chi è? In questo momento è Dino De Laurentiis, il produttore 91enne, che però è stabile rispetto all'anno sta scorso. Bello, sta bello tranquillo, non sta male. Esatto, sì. Non... E poi chi altro c'è? Gli italiani? No, c'è una schiera. No, gli italiani sono fermi, c'è soltanto questo personaggio e basta. Adesso sono personaggi che per la regola scritta del sito devono essere famosi molto per i media inglesi, cioè sono personaggi che si attendono da un momento all'altro che possano scomparire e quindi essere celebrati e ricordati per i media inglesi, quindi non è un osservatorio, diciamo, così globale. Certo. Però De Laurentiis... De Laurentiis è un produttore di fama internazionale, insomma. Va bene, grazie mille di questa Prego. Tua perla. Come ti è venuta l'idea di fare il pezzo? Ma in realtà ho visto un pezzo di Paolo Madron che su Michael Jackson, si parlava della non presenza di Michael Jackson sul sito di Death List e quindi non neanche loro se l'aspettavano. Sono questa rimasti. Dibattita, e quindi ho visto un po' che cosa si erano inventati per quest'anno e... visto un po' di curiosità, insomma. Bene, grazie mille, salutiamo Stefano Ciavatta del Riformista e andiamo ai nostri ascoltatori. Un minuto a testa, Fabio da Roma. Pronto? È in linea, sei in linea. Mi sente? Pronto, sì. Io sento un po' male, comunque Fabio. No, noi sentiamo forte e chiaro, insomma, quasi. No, Fabio da Latina, sì, volevo intervenire per quanto riguarda il discorso della statua della signora Arcuri. Perché poi Ippoliti mi ha anticipato, però perché ha letto la notizia che il sindaco di Latina chiedeva appunto la distruzione, cioè piuttosto che la distruzione, portare la statua nella città natale di Arcuri, insomma. Quindi volevo proporre questa cosa al sindaco stesso e a tutta la cittadinanza. Bene, e casomai l'alloggiamo nel giardino di casa sua? No, io sto scherzando. La sento male. Bene, grazie Fabio, la proposta è girata. Marco da Roma. Eccomi qua, dunque mi hanno purtroppo preceduto sul fatto delle gabbie salariali riguardo agli stipendi degli onorevoli del sud. Anche lei vuole ridurre gli onorevoli del sud, ma cioè, poverino. No, è la legge uguale per tutti, sono i deputati della regione siciliana che prendono molto. Ma si immagini, faranno quindi, le barricate. Se la legge è uguale però per è una tutti. Bellissima idea, giusto. Ecco. Oh, un'altra cosa, un altro argomento, visto che questo ormai è già stato dibattuto. Il prezzo del petrolio, per quale motivo tutti i mezzi di informazione danno il prezzo del petrolio solo in dollari e non citando anche l'equivalente in euro? E spiego pure perché ne vedremo delle belle, siccome l'euro fluttua col variare del dollaro, quando scende il dollaro e quindi aumenta il prezzo del petrolio, normalmente l'euro sale e ne vedremo delle belle, perché nessuno potrebbe dire è aumentato il prezzo del petrolio. I petrolieri incassano in euro e pagano in dollari, quindi ancora certo. Più questo dato dovrebbe essere messo in evidenza su tutti i giornali. Quindi un'altra paraculata. Meno male che ce l'ha segnalata. Mesi fa l'ha fatto per due telegiornali, Rai 3 la mattina, per due mesi, poi non l'hanno fatto più. Altra cosa, mi vogliono far credere che le grandi compagnie comprano il petrolio giorno per giorno? Non è assolutamente razionale né possibile. Tutte le compagnie hanno dei contratti pluriennali con i prezzi prefissati. L'Eni, per esempio, so per certo, per averlo visto, in Azerbaigian, insieme alla Gazprom, lei acquista il petrolio a 75 centesimi al barile. Fino ho capito, è molto interessante, sa che c'è, al prossimo momento richiami, faremo una puntata sul petrolio. Allora sentiamo anche Emilio da Milano e poi volevo chiedere una cosa, siccome c'è una persona che lamenta una censura, chiamiamo questa persona e ci ha mandato un SMS e vediamo per spiegarle che non c'è nessuna censura. Allora pronto, Emilio da Milano. Sì, buonasera. Volevo riallacciarmi ancora, come ha fatto l'ascoltatore precedente, alle dichiarazioni del ministro Gelmini riguardo gli insegnanti di serie A e di serie B. Immagino che le intenzioni della signora Gelmini, gli insegnanti di serie B sarebbero in questo caso gli insegnanti di religione. In realtà non so quanti sanno i privilegi che questi lavoratori della scuola hanno. Tutti sanno quali? Che sono... Ne dica uno. Gli insegnanti di religione. No, dica un privilegio. Allora, innanzitutto sono assunti dalla curia. E questo lo abbiamo appena ricordato. Perfetto. Hanno degli scatti salariali anche da precari, da supplenti, e quindi a parità di numero di anni di insegnamento hanno stipendi più alti. C'è di recente una sentenza del tribunale vinta da un insegnante non di religione che ha avuto uno stipendio equiparato a un equivalente insegnante di religione. Potrebbero farlo tutti gli insegnanti. Un'altra cosa molto interessante che fa rabbia credo a tutti gli insegnanti non di religione è che non sono soggetti alle fluttuazioni della popolazione scolastica, non sono soggetti al numero minimo di alunni nelle classi, per cui non sono soggetti a eventuali perdite di posti di lavoro, e considerando, io so per esperienze indirette ma molto vicine, di classe di religione di pochi elementi anche sotto la decina. Mi risulta, questo purtroppo non ho potuto verificarlo su nessun documento, però, che addirittura se la curia ritirasse l'autorizzazione a uno di questi per insegnare la religione, sì, sì, potrebbe comunque, anzi avrebbe comunque diritto a rimanere nella scuola e il ministero dovrebbe riuscire a piazzarlo da qualche parte. Ho capito. Bene, abbiamo ricordato, le ha ricordate lei, tutte queste eccezioni alla regola. Adesso vediamo se abbiamo un'altra telefonata. Luigi da Torino. Pronto, buonasera. Dottor Tedese, buonasera. Buonasera. Complimenti per le sue trasmissioni, non soltanto per questa, perché io la seguo moltissimo anche su Tedese. Grazie. Oh, non è uno sdolcinamento, è la realtà. Volevo soltanto segnalare, dottor Tedese, all'opinione pubblica quello che succede, quello che accade sul gioco d'azzardo in Italia. Io sono d'accordo su tutto quello che dice lei, però ieri sera lei ha detto una frase che non mi ha convinto molto e le spiego. Lei dice se il gioco è d'azzardo va bene che il governo, cioè che lo Stato guadagni, ma noi qui ci troviamo di fronte, premesso che sono un addetto ai lavori, quindi sono certo, molto... noi ci troviamo di fronte? Ho poco tempo, quindi concluda, mi dica. Il succo è questo, noi ci troviamo di fronte a uno Stato che propone giochi d'azzardo. Mm-hmm. Sappiamo che in Italia 1.200.000-1.300.000 sì, giocatori ludopati, praticamente malati. Perfetto, del gioco, malati. No? E questi signori propongono questi giochi con una miriade di panzanate. Ho capito, lei vuol dire che è come una droga e lo Stato si arricchisce sulle aspettative della gente. Mi piacerebbe approfondire, ma abbiamo poco tempo. Richiami domani. Luigi, grazie. In redazione Gloria Guerrera, Antonella Migliaccio, Mattia Nocchi da Milano, la regia Pietro Lacorte e Valerio Locchetti. Grazie, la Zanzara torna domani.